basta già così. L'altro non influisce più di tanto sulla nostra inquadratura. Ah, mi si arrabbiava perché lo copro. Non ti sei pettinato molto bene in carta i capelli. Come? È perfetto. No, deve essere il casco che me li aspetti tanti. No, basta che abbassi. Va bene. Benvenuti. Mettiamo un trucco. Benvenuti al parrucchino di carte. Volevo dire alla maledizione di carte, episodio 34. 34. Sì. 34. 33. Ho scritto 34. Quindi è 34. Al massimo sarà il 34 bis. È un dobbio. Curiosamente, 34 non è il numero di livelli che abbiamo. Se però lo dividete. Se non fate della numerologia. Ad ogni modo, noi siamo sempre Tycoons and Dragons e sempre ci potete seguire sui canali social di Tycoons and Dragons e RIGDR. Diamo il benvenuto a Francesco Arcidiacono in diretta con noi da Bologna insieme a me, Andrea Giacomo Vecchi, Stefano Gamberoni, Giulio Bosi, Master Enrico Catabriga e da Diamo Marco Bosi. Salutiamo! Niente di forte! Esatto. Salutiamo Edoardo Saladini, che non è con noi, e Luca Raddarini, che non sarà mai più con noi. No, però forse magari sì. Ci è venuto a mancare questo weekend. No. E, oggi ci vedrete in una modalità un po', come dire, vintage. Perché abbiamo tutti 29 anni! Non è così male, dai. Poteva essere peggio. Mi ha fatto l'otto? Perché sostanzialmente abbiamo avuto dei problemi tecnici, ma questo è il bello, bello della diretta, il bello del... della diretta? Sto sentendo bello della diretta, saluto. Salutiamo diretta Leotta. La gamba del tavolo. E sarà la nostra ospite della prossima sessione. Così like. Madonna, rega. Potremmo farle una sacca. Potremmo farle un social dedicato. Potremmo un gioco dedicato. Vabbè, allora, non passerebbe per un pervertito, però. Potremmo cercare i suoi dati in banca. Detto che facciamo un gioco dedicato, però non che noi facciamo un gioco addosso o qualcosa del genere. Potremmo cercare il suo numero di telefono tramite la tua banca e telefonare in diretta. Non sarebbe molto corretto. In realtà considerando che tutto a 2 mesi verrai. No, ce ne sono ancora un po' 8. No, dai, 9 mesi, dai. Fino in agosto, allora a giugno la chiameremo in diretta. Tic tac. No, stai tranquillo, sbatteranno fuori i vecchi. Ah, l'hai capito! Pazzesco, questo era pazzesco. Grazie ragazzi. Un saluto a Unicredit che ci sponsorizza le sessioni. Tra l'altro, esatto, diamogli un modo per cacciarmi direttamente. L'abbiamo visto, l'ho preso! Puoi taggarla, l'Unicredit. Sì, deve essere cacciato veramente da quello che posso vedere? Sì, non puoi portartela da casa l'acqua calda, povero me. Dai, let's. Quello è un po' complicato. È un termos col tè. Frutti misti. Prendi i mostri. Pompadour. Senza fare danni. Sì. Una bustina va nella carta e il filtro va nell'umido. Se c'è una cosa. Grazie. Di più. Ah, oggi c'è lo spin-off. Quella di sì. Pat e sfortuna. Pat e sfortuna. È vero! Oh! Ah, non c'è Marco? Ah, c'è Marco! Non l'ho visto. Eravamo per la foresta. Perché non è vero oggi. No, ma no, ovvio. Non l'ho visto, non l'ho guardato in una direzione. Smutati, Marco. Bravo. Cazzo, smutati adesso. Ti ha preso qua Marco, aspetta. Ah, sta parlando di... l'ha preso prima lui. Ok. Cosa vuol dire? Ok. Bene. Sì, non so bene. Quest'oggi la sigla e il riassunto vi sono gentilmente offerti da Stefano Gamberoni. Ah, io? Oh, è vero, vabbè. Quindi non ci sono mai nei video perché ci sono davanti. Capito? Se ti metti tu davanti c'è il doppio di me, io sparisco completamente. No, vabbè, quello comunque perché tanto l'effetto. Forse dovrei tipo generali sei a casa in faccia e immagina stesso. Pubblicità alla generale. Se ci vuole specializzare la generale. Quest'anno sulle nuove. Magari dovrei livellare un po' la sedia in modo che lui sia un po' più. Oggi sono riuscito ad andare a domani pomeriggio. Bravo, bravo, carina questa. Io non ho detto niente però. Mettere il dito sulla schiena. Oddio, oh mio Dio! Puoi rifarlo a slow motion. World War Bonazzi, segue la tua faccia. Potresti su World Wide Bonazzi spammare noi? Buona, ragazzi, per guardare. Così per guardare te. Appena avrò la comunicazione in pale. Ma infatti anche in comunicazione in pale il primo posto non doveva essere un peso del cazzo, doveva essere tu a dorso nudo nella tua solita posa. Ma il peso del cazzo 20 kg fa intendere che. Non ancora non si segue, adesso si seguirà. Bene. Ok. Comunque, vai. Abbiamo tirato la tua vita. Li vediamo, no? Il riassunto comunicazione. Dai, mi sono arrivato. Mi ricordo. Dai, allora, siamo rimasti che abbiamo fatto la sedia. Finito l'assedio shottando tutti. Bene. Poi. Ora abbiamo finito l'assedio ammazzando e stuprando ogni zombie e ogni spaventapasseri. Soprattutto gli zombie. Ci ripare. Sì, c'è rectare comunque. Rectare. Vabbè, poi abbiamo. In realtà devo andare a chiamare gli elfi. Non so bene per quale motivo. Ah, no, perché probabilmente arriva Strabi. Allora, prima abbiamo avvisato i corvi che ci hanno portato. Prima abbiamo avvisato i corvi che ci hanno portato dei. Un messaggino. Che ci hanno portato dei rifornimenti. Esatto. Poi, mentre in tutti i bei film che si rispettino, gli elfi arrivano alle porte della fortezza dicendo siamo pronti a uccidere tutti, noi vogliamo andarli invece a chiamare. Si vede che non hanno capito niente la posa di Helm e quindi siamo partiti io, tramutato da Alcio Gigante e, Sfortuna. E Sfortuna travestito da Bardo. Cazzo, Cazzo sei tu? Da bardo umano. E basta. Nel frattempo, quelli rimasti a casa. Quelli rimasti lì. Organizziamo. Stiamo organizzando le difese. Ah, stanno tamponando la porta con. No, in realtà stiamo. No, stiamo facendo una barricata verso l'abbazia. Lungo questa strada, diciamo. Bruciamo un paio di barricate. Come si chiama questo luogo? Crest. Ecco, le 5 giornate di Crest. Abbiamo preso Strad si chiamerà. No, come il nostro passato. Abbiamo preso un tessuto rosso. Stiamo usando come bandiera. Esatto. E quindi siamo pronti. Intanto, comunque, nella corsa. Stiamo bruciando gli zombie. I corpi degli zombie smembrati. Marco, nella corsa nella foresta con l'alce, shot tutti gli animali che trovo sperando di fare l'otto. Disse il druido. Vabbè, raga, il druido è un alce. Al momento sono un alce. Appunto, non sei neanche un carnivoro. Fossi un orso, vabbè. No, ma sono quelli che si parlano sul mio cammino. Sei sempre di più l'alce di Epic Defense. Sì. Quella finisce male. Però. Appunto. Sarebbe un miglioramento. No, noi sì, stavamo organizzando le difese. E poi Kevin stava riposando perché era stato ferito. Bene, esatto, no, tu più o meno tutti stavate riposando. Sì, esatto, in realtà tutti stavamo riposando. Eravate messi molto meglio. Avevamo fatto il riposo breve. Sì, in teoria stavamo avviandoci verso il riposo lungo, ma no, dissonanza e chissà. Vabbè. Ora, il party si splitta. Esatto, e chissà per quanto. Ah, dovevamo dare due notizie. Vabbè, se non è rapido, se non ne troviamo troppi casini e lui facci skippare meglio. Allora, sfortuna. Sì, questo è solo. Sì, effettivamente il tuo nome per questo programma in cui ci splittiamo io e te. Patrick Sfortuna. Sfortuna qua sul gruppone mentre devono attraversare la foresta da soli. Patrick e Sfortuna. Sì. Sfortuna e Patrick. Patrick e Sfortuna. Patrick e Sfortuna. Okay. Comunque, le informazioni generali sugli elfi che vi abbiamo dato prima di partire. In pratica questi elfi vivevano per i cazzi loro e, Kevin era il loro capo. Strad si è invaghito della sorella di Kevin. Kevin ha pensato che fosse un'idea geniale lapidare la sorella. L'ha fatto. Perché l'aveva lapidata? Perché per non farla andare in sposa a Strad. Ah, l'ha uccisa. E non capisco perché non abbiamo fatto lo stesso con Irina. Perché, chi... Ciao, Irina. Perché l'ultimo che l'ha fatto ha visto la sua città inondata e distrutta. Quindi noi non possiamo toccarli, Irina. Qualcun altro può uccidere, non noi. E poi verso un po' glielo volevo buttare. Davvero? Ha lapidato la sorella, giusto, perché mi perdo queste cose. Strado non l'ha presa bene e quindi ha ucciso tutte le elfe femmine e ha lasciato solo i maschi. Non tutti, immagino, perché sono tipo 20 i rimasti. Sì, più o meno. E ha tagliato le orecchie a Kevin, è stato lui a tagliarle. Così è nata praticamente il primo. No, anzi, vabbè. Questa è la storia della nascita dell'omosessualità degli elfi. Perché tra i suoi cosi, tra i suoi luogotenenti, anzi il suo luogotenente più fidato, tra l'altro un elfo, mi strano. Che ha tagliato le orecchie a Kevin. E gli ha lasciati lì. Grazie, poi zio. Vivere in sto posto, sorvegliati dai vistani. Vabbè, se vuoi portarmi qua l'acqua la tengo un po' qua a mollo e poi la tiro fuori. Noi ci siamo già stati. E infatti gli tipo gli zingari. Sì, vabbè. Vabbè, sono tipo degli zingari. Sì, sì, i rom. Quelli alla stazione. Sono che puzzano e mangiano i nomadi. Sono una tribù nomade che per lo più serve Strand. Di umani che per lo più serve Strand. A noi gli unici a cui è concesso andare e venire da Barovia. Da Barovia. Quindi uccidere i nomadi, liberare gli elfi e chiedere aiuto. No, i nomadi sono già trasferiti nella città che noi abbiamo liberato per Strad. Ok, così va. Era la ridente cittadina. Era quella di cui abbiamo defenestrato il coso. Esatto. E quindi in teoria adesso gli elfi dovrebbero essere da soli. Però l'ultima volta noi siamo andati lì per cercare di convincerli. Eravamo più o meno riusciti con Kevin e Kevin ha detto parlerò con i miei sodali. Poi quando siamo ripassati lì andando via dalla città, che ormai era passata da Strad, perché noi sappiamo fare queste cose in maniera bellissima, abbiamo trovato Kevin tipo crocifisso e ci ha raccontato che sono stati i suoi stessi compaesani. Perché aveva appunto proposto di ribellarsi a Strad. Quindi voi adesso dovete andare lì. Mettilo più su. Wow. Oh, panettone. Ne mettilo più su da catta. Sì, sì. Anch'io. Sei a Lucas. Ma mangiati la cioccolata di Osnabrück. Che è però molto buona. Sì, ma mi sono già dato i denti. Oh. Marco Bosi in versione Jacopo Romano. Vabbè. Comunque dovete andare lì a cercare di convincere gli elfi a passare dalla nostra parte e a venire a Kresk. E l'ultima persona che gli l'ha chiesto è stata crocifissa. Vabbè. Sì. Parla l'alce. Però non aveva il tuo carisma in teoria. E soprattutto le condizioni sono mutate. Abbiamo una città fortificata. Forse. Giulio, non dire queste cose qua. Lì sono zitte, non mutate, che pezzi si arrabbia. Con delle donne che possono partorire. Beh, effettivamente sì. Può essere una merce di scambio interessante. Boh, vedi tu come buttargliela giù. Ma buttarla. Ma gli dici tutto questo a lui? Mettendogli paura. Gli stiamo mandando a trattare, cosa diciamo? Andate tranquilli, sono gente amichevole. Esatto, sì, l'idea era quella, no? No. È per questo che mandiamo loro, giusto? Ci sta. Sì, la cosa fondamentale è che appunto la prima volta che voi avete parlato con loro dovrebbe essere un po' caldo. E il loro accampamento era condiviso con quello dei vistani che stavano lì di fatto a controllarli, ma in un qualche modo anche a proteggerli, nel senso che finché i vistani vedevano che loro si comportavano bene, non gli succedeva niente. Adesso questi non ci sono più, e quindi non hanno né più un controllo ma neanche più una protezione. E quindi si può tentare, secondo l'idea di Casimir, di fare leva su questa situazione per cercare di portarli dalla vostra parte. Quando avete tempo, scusate, potete provare a fare un commento sulla diretta? Che voglio vedere. Schifo. Ah no, diretta lotta. Voglio vedere come viene, perché dovrebbe vedere. Scrive lottato. Chiocciola Unicredit. Rimettere nei commenti. Allora, che qua per commentare devo ascoltare. Basta che togli il volume. Posto, bravo. Mi piaceva sentire scena. Viene bene. È meglio come interfaccia. Sì. Il tuo Arci non si vede. Cosa? Il tuo. Il mio commento non si vede? No, perché non l'ha fatto. Sì, sì. Sì. Commentato adesso. Ma forse non sei un fan più attivo. No. Forse fan più attivo più uno, cosa vuol dire? Esatto, perché ho peso 1000 monete d'oro e magico. Esatto. Molto bene. Ah, sei invidioso, eh? Sì, cazzo. Blocca. Clicca sul blocco. Limite. Infame, no. Segnala. Impostazione di moderazione, non set, limitazione, discussione, follower, correstezza. Ok, quindi... Ne hai troppi, devi gestirli con me. Voi castellani avete dato ordini a destra e a manca, ai poveri popolani, e poi siete andati a dormire. No, non potevate. Perché? Perché io dovevate aspettare bellissimo. 16 ore per rifare un riposo, di fatto. È così, cara, tu ci impedisci tutto. È stato Arce in realtà ad impedirlo. Beh, mi ricordavo un po' cosa. Meno comunque di sì. Sì. Però è un po' meno di sì. Effettivamente dovevo aspettarla, ma no. Noi abbiamo dato via l'unico curatore, giusto? Ah, avete dato via gli unici curatori. Sì, io l'ho detto, non mandiamo i due incantatori, ma beh, c'è Casimir. Ma questo piano non Casimir l'hai creato tu, Giulio. Sì, ma io ho specificamente detto mandiamo sfortuna e aspettiamo i cavalli. Quindi mi stai dicendo che hai perso il controllo del tuo stesso piano. Vi siete rivoltati contro di me? Non mi è perso. Sì, invece. Ma forse è meglio così. Quindi perché così non dovevamo aspettare che arrivassero i cavalli da, sì, dalla vigna e facevamo prima. Non è vero, questa era questa cosa. I popolani li avete istruiti di tagliare gli alberi e cominciare e bruciare a barricare le donne e i bambini cominciano a bruciare i cadaveri. Che stai trovano. Attento che non c'è, cioè, non compare. Tu Arci hai fatto un commento. Sì, Vez. Non appare. Ma solo il commento. L'ho commentato comunque. Sì. Però non so perché qua me lo fa vedere. Non so perché lo... E qua invece no. Non puoi visualizzare no, solo commenti 1, non vedi quello. C'è già scritto commenti 1, però tu non vedi quello di catta. Forse lo scrivo qua. Vediamo. Però non vedi quello di catta. I commenti delle dirette sono delle cose. Ho commentato sul GDR forse. Così? Ecco, due bose. Così. Due bose commentate. Commentate si vede. Anniversario follower, ma poi è possibile? Ma scusa, mi hai commentato così. Vabbè. Benvenuti. Abbiamo un trucco. Benvenuti. Tu hai commentato su RGDR, cioè. Dovevi commentare invece. Tycoon Sandragon. Ah, sei adesso. Ma io so solo Tycoon. Io non ho Tycoon Sandragon. Ah, eccolo il traduttore. Ah, è possibile, cioè. No, bella. Non puoi non essere follower della, cioè. Solo l'altro. Però non mi arrivano mai a me queste dirette di Tycoon Sandragon. È sempre diretta da RGDR. Sulla home. Avrei silenziato. Boh, no, no, dipende. No. Ah, forse devo mettere seguire. Molto devo mettere mi piace. Abbiamo un nuovo follower. Dopo appena un anno di... No, potremmo rifare un sushi con la maglietta tutti quanti del GDR. Faccio di merda. Sì, sacco a sala può solo quel giorno, quindi... No, lui sta qua dal 20 al 29. Metto posso solo il 20. Gli altri giorni che strozzata che hai messo stato per farci. Quella di buttare il cammino. Non so come ridi. Ci tiriamo qui. Fuoco, cammino, insieme, bambino. Ciao Charlie. A proposito. È diventato rosso. È già rosso. Non devi buttare i figli nel cammino con gli scatoloni. Ah, grazie, non l'avevo capito. Tardi. Ops. Sti cazzi. Molto bene, dopo un'ora i tre popolani vengono a svegliarvi dal vostro riposo e sono impauriti e bruciacchiati. Ma cazzo avete fatto? E vi dicono: aiutateci, non riusciamo a erigere le palizzate perché il teschio fiammeggiante continua a bersagliarci con raggi roventi. Bene così. Quanti di voi sono morti? Due. Hai sentito, Beth? Raggi roventi. Chi è che ci bersaglia, scusa? I teschi. Teschio fiammeggiante. Ancora. Ma dove? Due uomini. Dove? Sulla strada per l'abbazia, quella che era caduto. Ah, prima. È vero che uno era caduto lì. Beh, andiamo a distruggere quello. Ah, prego, voi che avete le armi magiche. Sì, le armi magiche. Non armi magiche. Non mi sembra. Ma come se non vi sono potuti eravamo guariti, se non sbaglio. Sì, non posso. Avete fatto il riposo breve. Vabbè, tanto si tratta solo di dare due mazze. Non era così forte. Cioè, ma andiamo. Non aveva troppi punti ferita. Ci cioè, andiamo tutti e tre. Beh, per forza lo dobbiamo uccidere. No. Secondo me sì. No, non ci sono i corvi, non possiamo iniziare a delegare. Cioè, i comandanti di un esercito non è che fanno tutto di persona, delegano. Probabilmente delle chiavi popolari, ne perdiamo tutti dopo. Ne abbiamo già persi due. Vorremmo delegare Mongrel, ma scusa, i corvi sapranno fare qualcosa nella loro vita. Volano. E fanno piccoli oggetti di legno. È vero. Impegnati a fornirvi le provviste e cercare di farvi arrivare la cavalcatura. Chiediamo l'iniziativa. Andiamo. 20! No, forse è meglio che non andiamo. Io lo tengo per i prossimi. 8. Stavo vantando. Anzi, no. Mi hanno detto che la iniziativa è comunque una prova di estrezza. 13. 12. Anzi, 10, scusa. 10. Sai cosa tiro? È un'iniziativa per noi, ma... 13 ha fatto. Quanto hai fatto, Garrosh? 13. 13? Chi di Avezzo? Dietro! Guardati, no, no. Dietro. Andiamo, ci facciamo anche tu. Ma le volte non fai, sai muore perché ti impari 30 volte non al giorno. Ti piace, dai, puoi dire che non mi piace. Dai, ti piace. Mi piace, non l'ho mai ascoltato da solo, mai. Comunque Edo poteva cantare 13 nel suo compleanno. Ma solo che quello là è impazzito. No, adesso canti questo, ma io non so cosa sia. No, la devi cantare, devo cantarla io, quindi devi cantare tu cosa. È stato un settore un po'. Ma quelli quasi brevi non lo difficile di gestire. No, più altri due che solito. Sì, poi esatto, poi dopo un po' dico, boh, ma raga, ma questi? Ah, non li conosco, nessuno li conosce, dico, ma allora che cosa sta succedendo? Vabbè, allora, forse ora puoi berlo, Arci. Non mi va più. Sushi. Non mi va, questo, non mi va. Perché? Non mi va in questa tazza. Che si raffreddi, mezzo. Adesso secondo me la puoi bere. 120, molto bene. Non fumo. Sono i punti ferita? No, metri. Anche scemo fumo. Ripieno. Hai provato? Delle scemo? No. Sta a me? Sì, sta a te. Quindi, dov'è sto cazzo di robo? È sulla strada per l'abbazia, che è lì che ridacchia per mentre non mi sembra. Spara. Vabbè. Giulio ha detto di provarti gli armi, però non mi sembra. Vabbè. Kevin? Sappiamo se che servono gli armi. Si sveglia anche lui. Kevin rimane nella sua trance. Sì, sì, do due schiaffi. Il libro della strega l'ha lasciato a noi, tu sei parlato con te? Ce l'ho io. Ovvio. Niente. Volevi lanciare un altro testo? Sappiamo che si deve usare l'arma. No, magari c'era scritto come controllato. Vi ricordate che ha resistenza? Allora sì. Prendo l'ascia. La tua... E lo Vine Breaker, no, Vine Anger. Wine Anger. Che provo a colpirlo. Lo smezzo. Posso? No. Ok. Voi cominciate. Dobbiamo arrivarci qui. A 120 piedi da lui, quando lui comincia a spararvi addosso, dei missili magici. Noi ci avviciniamo e vediamo dov'è, non è che andiamo subito in gettata, lasciaci un attimo. Ok, prima o poi devi avvicinare. Prima o poi, aspetta, lasciaci fare una strategia. Possiamo usare dei cadaveri come scudo? No, vabbè, tanto. O qualcosa come beh, scudo. Lui colpì, c'è solo campo aperto. Lui colpiva d'aria. Un sentiero che va su dalla montagna. Lui colpiva d'aria. Gli ha lanciato un suo simile, una palla di fuoco addosso. Quindi non saliamo tutti assieme. Cazzo, le palle di fuoco lancio questo. Cioè avete combattuto mentre io andavo da un'altra parte. Ammazza però. Ne abbiamo uccisi due. Vabbè, sì, è oddio, però... Tua. Almeno avresti un più tre. Hai tiri salvezza. Sì, ma se ogni turno ci dà una palla di fuoco, noi facciamo 60... Cioè, ci vogliono... Al terzo turno lo attacchiamo, praticamente. Sì, il problema è che... Se lui sta fermo. Se lui sta fermo. Sì, il problema è che nessuno di noi può fare altro se non prima di fare l'attacco. Ok. Magari le finisce, aspettiamo. Noi arriviamo, diamo il teschio. Ok. Abbiamo i popolani, avete archi e frecce? Sì, signore, nella l'allenatore? Sì, il box. Nella tenuta di... No, la tenuta. Finalmente casupola, l'arco! La casupola di caccia dei cacciatori. Bene, andiamo alla casupola di caccia. Cacciatore. Entrate in questa casupola dove vengono tenute gli oggetti per la caccia. Ovviamente sono tutti molto vecchi e polverosi perché da tempo immemore che la gente... Non esce più dalle mura, in quanto non è sicuro. Un magico sdozzo. Posso comunque lanciare due frecce al posto di un solo singolo dardo di balestra. Non me l'aspettavo così un combattimento in cui avrei iniziato per primo. Infatti non succede mai. Che archi troviamo? Pensavo fosse un vantaggio. Quelli. No, forse mi sono sbagliato. Archi da caccia? Quelli comuni, sì. Cosa ci sono? Dei lunghi e dei corti. Anni. Quanti altri tipi di archi ci sono? Volevo leggerlo sulla scheda, ma non c'è. Sì, ma... Considera che... Non so, volevi una roba più sul divertente. No, ognuno può fare come gli pare. Weapons. Semplicemente spiegato l'evento scatenato, lui è andato all'avvento. E per cui archi? Perché? Shortbow? Ecco cosa stavo facendo. Direi che è uno shortbow. Un altro è marziale, il longbow. Sì. È uno shortbow. È una blue gun. La cerbottana. Marziale la cerbottana. Una cerbottana. Dai, non possiamo andare con un teschio che ci spara le palle di fuoco con una cerbottana. No, era perché c'è l'elenco delle armi marziali. Ovviamente c'è la balestra pesante. Cioè, faccio prima prendere un sasso e tirarglielo io. Non era perché voglio una cerbottana a testa di. No, vabbè. Non te che riporta a finirla, sei bloccato, sono bravo. Scusa, si vede che non gli veniva la parola. Esatto. È che sto guardando le armi marziali da distanza. Ah, okay. Cioè, l'arco lungo, la balestra pesante, la cerbottana. Mi aveva incuriosito, ok. Cioè, questa blow gun, che speravo fosse qualcosa di diverso da blow. La pistola succhia. Vabbè, non sono stato a pensare. Poteva essere qualcosa di molto più figo. Potenzialmente. Poi sì, non avevo guardato che faceva uno piercing di danno. Però. Ah, ok. Beh, quante punti per età questo? Di Edru. Vabbè, comunque tanto io. Quanti archi corti ci sono? Ne vedi 5. Bene. Li testo e prendo quello che mi sa meglio. Poi ne prendi 3. Ma voi non ne avete nessuno? Io ho due accette, quindi ma vuoi avere... Puoi prendere un arco corto. Sì, prendo anche un arco corto. Comunicazioni pale, tutto attaccato. Comunicazioni pale. Non mi ricordo, ho fatto la meglio. Sì. È pieno di immagini. Sono quelle un po' certo. Iniziali per non avere profilo vuoto. Beh, tu sei il guru di Instagram, insegnali. Work in progress. 6 post, 19 follower, 19 seguiti. Cosa segui? Un po' di roba. Efficiency strettina per sconfiggere la secchezza. I danni quanto fa? Di 6. Aggiungo la forza, io no. No. Ho il corpo. La destrezza o neanche? Sì. La destrezza. La destrezza. Sì. Vale già da fare qualcosa. Mm. 80-320. Aspetta, però non ho più lo scudo se uso l'arco. Esatto. Neanche lascia un'arma a due mani. Ti prego. No, no, lascia io. No, però non è se altra o la lancia. Possiamo aspettare. Range 80-320. Come la lancia becchiamo. A due mani, scusa, non posso usarla a una mano. Ah sì, no, però se l'arco è a due mani, come sì, fai sì, a no, infatti ho detto, lancia, infatti stavo ragionando che non so se mi conviene. Ce l'ho l'unico arco a due mani di tutto il gioco. Con quanti mani tieni l'arco così? E come fai a sparare con l'arco di solito? No, per sparare a due mani, è l'arco che ha una mano. Sì, sì, però se ho l'arco lo uso per sparare, non per darlo in testa. No, tu puoi tieni l'arco in una mano, falla nell'altra, colpisci con la spada. No, però era... Però in realtà puoi tenere l'arco in mano, sparare con l'arco e azione bonus interagisci con la lancia, te prendi in mano la lancia. E lo scudo? Lo scudo. Scusa, ma non posso tenere lo scudo qua? L'arco non ha senso. Non ha senso. Perché no? Tu lo tieni col... così e tieni insieme. No. Ma vai troppo corto. Eh sì, però ci dobbiamo arrivare. Allora, io prendo un arco, scusa, io vi copro insieme a altri quattro paesani. Sì, ci sta. E poi, cioè, nel senso, non è che voi andate e io sto solo dietro, io vi lascio un po' di tempo e vi seguo anch'io, sì. Così non veniamo tutti colpiti. Cioè, anche voi in realtà poi andate su a scaglioni. Ci sta. Io posso sputare la Gilles. Prendo quattro paesani e do un arco. 20 frecce troviamo? Ci sono quante frecce volete. Perfetto. Allora prendo 200 milioni di frecce. Esatto. Vabbè, 20 frecce la farei fare. Sei ingombrato, non ti riesci più a muovere. Ah, se le pianta addosso, così può portarle. Mi prendo i caricatori tipo da mitragliatrice di frecce. Bello. Sì. Va bene. Prendo due o tre casse siamo di frecce pronti. Da mettere lì appena fuori dalla gittata. Paladino, guidaci. No, basta. L'idea è che... Vabbè, io che sono il più veloce vado per qui. Vado, andiamo. No, io tocca a me. No, sì, no. Stronzi. Perché consigliava. Sì. Se vuoi, consigliava di andare a scaglioni per non essere subito beccato. Cioè, non è io e i popolani siamo un attimo indietro per sparare. Andiamo. Tanto l'arco è 320, quindi non becchiamo. Con svantaggio. Il raggio di una pala di fuoco è 30 piedi. 30 la gittata piedi. Delle armi. Non so. Gittata normale barra gittata lunga stiamo che a 80 piedi un arco corto con cui tu colpisci normalmente da 80 in poi colpisci con svantaggio stare a 40 piedi l'uno dall'altro ragione. Che senso ha arrivi un turno allora dopo sì. Che senso c'ha mentre saliamo ne colpisce uno solo o alla volta perché sono 120 piedi quindi tre turni sì, di palla di fuoco però oddio non ho detto che cioè, in teoria lui non è che ogni turno fa la palla di fuoco in teoria no. Beh, cioè almeno con noi prima no con voi ne ha sparata solo uno no solo uno vabbè intanto andiamo però intanto senti io vado poi tu vedi sì, cosa sì, vuoi certo. Fare no, io vado doppio movimento e speriamo bene quindi primo è Bardistran che fa i suoi 60 piedi quanto ho di punti ferita? 45 io? Ah io. Bene, un po' di più. 37. Bene, ma ah, cazzo, io 37, ciao. Ciao entrambi, mi sa. Vai. Poi Garrosh. Ne faccio 70 io allora. 70. Starà a tirare particolarmente alto. Atlas e i suoi fidi. Spariamo a cosa? Però 15 con una freccia, con la seconda. Che cazzo di merda. Cosa stai facendo? Perché ti di svantaggio? Così? Sì, svantaggio. Perché svantaggio? Perché è lunga città. Un'altra 10. I miei peones? Devo tirartele? Posso tirarli io se vuoi. Per favore. Quanto hanno? Quanto aveva il commoner? Più 2? Non sa, più 2 di destrezza. No, più 2 di proficiency, perché aveva tutti i 10, ci avevamo visto la volta. Ah, ok, esatto. Più 2 di proficiency. 12. Quindi 12, 10, 14. Oh, quanti critici avrei fatto? Porca ancora! No! Giulio, ma che cazzo stai facendo? 17. Colpisci. 2 colpiscono. Colpiscono 2 più io. Quindi di 6. Quindi sono 3 di 6 più la tua destrezza. Esatto. Vabbè, meglio di niente. Di mezza. Giusto. Sì. No, dove? Non ci sta. Più che altro la cosa divertente è che farà una palla di fuoco sui voi qua. 7 danni, quindi 3. Ok. Di fatto noi non abbiamo fatto no, mai... noi siamo fuori gettata. Sì. Arco 320 massimo. lo so, però dipende, cioè come siamo messi, perché 120 di strada, cioè dobbiamo fare tipo delle curve o linea diretta? Adesso siete su un pezzo dritto. Quindi è dritto rispetto a lui la sì. direzione, non dobbiamo... Dietro di lui la strada curva e poi fa il serpente. Ah, ok, quindi è dritto. C'è 120 anche in linea d'aria questo, sì. Sì. Ok, tocca a lui. L'ho specificato per fare un fuori città. Spara un Magic Missile su Atanas. Crea 3 dardi brillanti di forza magica che arrivano direttamente al bersaglio. E sono. Lo distruggo senza. 8, 11 danni. Quanto sei? 38. Era 49. Dopodiché vedete che usa il suo movimento per andare indietro. No! Dai, falso e vergognoso. Vergogna falsa. Vergogna. Falsa vergogna. Siamo. Non lo so, è che. Ma loro... vergogna, dai. E niente, io uso il movimento del suo arretramento per pareggiarlo. Poi faccio 2 movimenti. No, beh, prima ha fatto un movimento su... Di quanto si sposta? Lo vediamo a occhio. Ad occhio si sposta di 40 piedi volando. Vabbè, noi ci possiamo di 60. Come di 40 piedi? Ah, una velocità di volo di 40 piedi. C'è scritto così. Quindi tu lo recuperi 20 piedi ogni turno, quindi ci vogliono almeno 5 turni sì, per raggiungerlo. Eh sì, ma poi diventa colpito. Sì, no, a un certo punto arriva l'abbazia, poi lo salutiamo, ciao. Se arriva sotto l'abbazia, cioè c'è la gente nell'abbazia, cioè. Sì, colpirà quelli dell'abbazia, se vuole andare all'abbazia, intanto lo inseguo, poi vediamo. Ok. Vabbè, intanto adesso i contadini possono iniziare a mettere le palizzate, ma stanno andando. Dai questo ordine. Sì, non ai quattro con gli, no, archi, certo. Gli altri. Avanzate voi. Sì, ti chiedo una cosa, se lui dovesse fare le curve e continuare su, è possibile tagliare? Con una prova di athletics molto buona? Sì, ma lui sicuramente, vola, è, lui sicuramente è possibile, lui sì, lui può tagliare quanto gli pare. No, per noi, cioè, per voi è possibile, sì, considera che è tipo una scalata di, mi sembra, 50 piedi che va sopra. Sì, come, lui come... potenzialmente può arrivare cioè, a una distanza per noi irraggiungibile. Sì. Esatto, si muove più velocemente di noi. No, nel senso in alto. Cioè può andare tipo in alto e noi non lo becchiamo mai. Anche. Sì. Niente, che stia lì, cioè nel senso che cazzo deve fare. Sì, se si avvicina alla batteria. Niente, o proviamo a fare il tiro al piccione. Senza armi magiche, quindi. Cioè. ci vorrebbe Casimir e Bona, e cioè non nel senso cioè non possiamo fare niente. I corvi ci guardano. I corvi stanno facendo la staffetta da continuano a fare per aiutarli. Vabbè, niente, intanto per un altro turno avanziamo, poi vediamo se ci vediamo ancora, ci vediamo, torniamo indietro e Casimir, ti prego. Please, baby. E questo era di Strangarosh. 70 piedi. 70 piedi. Tu cioè, hai detto un momento, 60 piedi, 70. Sì, no, sì, 60. Ok. A meno che non possa tagliare quel discorso che ti facevo poco fa. E lui che non so in che direzione è andato. E lui che va anche, che prende. Lui è andato verso la fine del rettilineo, quindi si è proprio in quella curva. Tu dal tuo punto dovresti scalare. Scusami. Cioè, lui sta facendo questo. È lì dalla curva, fai conto. Noi siamo tipo qua. Sì, quindi posso ipotizzare che lui faccia così nella mia testa. Voglio andare qui. Tu per andare lì devi fare una scalata di. Non c'è la quanto sono le altitudini, vero, in quella fase. Ti taglio la strada almeno. Sì, da 400 a 500. Quindi. Un 100 piedi di scalata. Cioè, velocità di scalata? Ma magari un po' meno perché i cosi sono qua. Lui vuole scalare, quindi questa passerà attraverso nel questa. Senso, questi sono da qui a qui sono 100 piedi. Sentire una metà. Tu dici in linea d'aria, hai fatto il quadretto? No. Okay. No, ogni cosa sono 100 piedi, sì. Però il sentiero a metà di 100 piedi, nel senso che non è che improvvisamente sono 100, non è 0 100, cioè magari tra un sentiero e l'altro ci sono 100 piedi. Sì, tra un sentiero e l'altro ci sono 100 piedi. Quindi lui è quello che vuole fare, andare da un sentiero. Magari non voleva andare sul sentiero, ma sulla punta del collo. Ci sono 100 piedi e di scalata. In velocità quanto ipotizzo la scalata era la metà del tuo movimento, se quindi ci metterai 3 turni. Tu fai 35. Sì. Quindi in due turni 30. Io spostati. Se devi fare 100 piedi, in un turno 35, in un turno 35, 70, 105. Tre turni. Non ha molto senso, let's. Ci metterei 3 turni. Cioè praticamente ci metto meno a fare il giro. Questo senza dubbio, per questo c'è un sentiero. Sì, delle due fai il giro e ti butti sotto. Sì, esatto. Sì, allora continuo, 70 piedi in avanti. Ok. Atanas. Sparo. Come state fettando adesso? È sempre il teschio. Ancora? Lui scappa, noi ci avviciniamo, però. Mancato. Sì, Marco, mi sa che possiamo stare FK. 14. Colpito. Ok, 1, ho colpito. I miei peones, 16. 11 più 5. Ah, scusa. 13. Colpito. Questo è mancato. Quindi 2 e 1. Questo è mancato. Questo è mancato con un 5-5. E questo. Ah, è mancato, quindi 2 sono. 2 e 1 altro. Okay. 11 danni. Cioè, fatto quei danni di prima, 5. Anche se prima hai colpito con più gente. Bene. Avremmo fatto 3-1-1. È morto? 11 danni. Non ti chiami Mahatma Gandhi? 5-4. Oh, tiro un D6, cioè non è che... Che cosa stai combattendo? Con un arco. Ah. Lui scompare dietro la curva. Oh, il tifoso. Attenzione. Cioè, non lo vediamo. Stai salendo? Fa il G, sì. Ah, perché è talmente ripido sopra. Allora, alla fine ho proseguito dritto, faccio prima. Ah. Ci metterai 3 turni per passare da qui a qui. Quindi lui non ci vede più, non ci può più colpire. Vero. Che ironia. Quindi ce ne andiamo. In realtà potremmo anche star così, ci si mette qui dalla curva in modo che se lui viene così non si attacca. Il problema è che se arriva sopra esatto, il problema è che lui può fare mezzo passo e colpirci. Se lui viene sopra lo colpiamo anche noi. E se lui viene sopra tu scatti qua e gli salti addosso. Sì, peccato che agisca prima di me. Cioè, nel senso, lui agisce, mi colpisce, dopo posso scappare, ma intanto mi ha colpito. Colpirà uno e l'altro. Cioè, non possiamo non essere colpiti in assoluto, cioè. Certo. Vabbè. Sì, se ce ne andiamo. Se lui si è spostato, possiamo stare anche lì. Lui è tipo qua, dopo la curva. Sì. E noi non lo vediamo. E noi siamo tipo io qua e tu un po' più indietro. Vabbè, arrivo, vado più avanti. Dove arrivo? È una protezione extra contro l'abbazia. Allora, tu fai altri 60. Dipende da che parte sta. Contro tutti. Non lo so. 60, arrivi a 180. Arrivi a sei qua. Ah, nel mezzo del nulla. Sei a assoluto. Fai conto. Sì. 120 piedi dalla curva, più o meno. Ah. Guarda, sono un sacco di alberi. Bruciamoli. No, no, verranno tutti abbattuti. Le fiamme dell'industria. Beh, l'abbiamo Vardistran, l'abbiamo spaventato. Il nostro lavoro qui è finito. Sì, ritiriamoci. È Saruman, le fiamme dell'industria. Beh, l'abbiamo spaventato. Non tornerà più, andiamo. No, non possiamo fare niente, Vez, è inutile. Vuoi sprecare così il 20 di iniziativa? Salta e comunque. Esatto, ormai che hai fatto l'iniziativa. Dove infierire? Vabbè, vado e sto a questo punto 30 piedi più avanti di lui, giusto? Sì, sei, sono a 90 piedi dalla curva. Sei a 90? Sei, sì, esatto. 210. Io non ho mai detto di essere in mira. Metafora della vita. Non l'ho usata lì a sto giro, non l'ho mai detto. Perché avresti dovuto? Appunto, no, specifico. Scusa, ma che cazzo dici? Io cammino sulle pareti, perché prima mi hai detto che dovevo... Non hai parlato in generale, se noi dovessimo... Bastardo! Quindi... Io, vai su, porca trona! Aspetta, allora, non faccio 70 piedi, ma posso farlo anche non in ira o devo per forza essere in ira? Non mi ricordo cosa ti ho scritto. Magari potessi conoscere il fatto di camminare. Perché non sai pareti? Usare il tuo personaggio? Perché è una cosa che... Perché l'ha fatto Katta! No, il fatto di camminare sulle pareti non l'hai mai specificato. No, mai specificato. Va bene, entra in ira. Devo andare in ira, sì. No, comunque no. Aspetta. Comunque si vola 40 feet, ma non può stare 40 piedi sopra le nostre teste, perché c'è scritto over. Non lo so, però quindi spreco la terza. Si muove 40 piedi, ma sta a piccola distanza dal suolo. Ah, ok. La spazia dalla faccia. Sprecherei della terra. Sprecherei la terza ira su 4 della giornata. No, perché Katta. Katta già la mandava. Sono abbastanza in alto per voi. Benvenuti nel paradiso. No, non l'avrei fatto. Cioè, abbiamo avuto una volta dei, contro dei popolani che sembrano delle divinità. Cioè. Cosa faccio? Spreco la terza ira della giornata su 4 per inseguirlo, anche se a me non sembra molto utile. Ma lasciatelo in pace. Diventa un caprone. Dovrei andare in ira e camminare sulla penna. Ma perché? No, ma aspetta, continua a correre dritto. Secondo me è l'unico che devo fare adesso. Sì. Continuo continuo dritto. No, tanto è... Anche perché anche se arrivo su, poi cosa faccio? Da solo mi ammazza. Lui non è che vola. No. Sì, ho capito. Capito. Deve comunque. Cioè, magari sì, può passare da un sentiero all'altro. Certo. Però perché scusa, deve avere l'ira per fare questa cosa? Perché è super strano. Cioè che funziona così. Perché per camminare sulle pareti non è proprio una cosa che si vede tutti i giorni. Ma scusa, le altre cose degli altri animali, uno deve essere in ira per farle? No, non tutte. Dipende se è quella che prendi al terzo, alcuni sì, alcuni no. Ma chi sta? Sta Garrosh che sta decidendo che sta no, da prendere. No, vado dritto. Ah, vai dritto? Sì, ho sì. Capito. Attenso. Io faccio 60 piedi avanti. Mm-hmm. E dico a un peone di venire 30 piedi e fare un movimento, di seguirmi, e altri due di restarmi. Okay. Sto giocando a Civilization. Tu serve, legna, tu pietra. Dobbiamo costruire tu cibo. Loro lo vedono. Cioè, col fatto che sono più lontani, in teoria la prospettiva è un po' diversa. No, no, perché c'è la parete. C'è troppo di livello. Okay. Se lui si sporgesse dal sentiero, forse sì, si riuscì, anche perché lui intorno emana una luce verde. Quindi noi intravediamo la luce di 15 piedi. Quindi qualche riflesso verde tra le rocce lo vedete. Quindi capiamo negativamente, capite la posizione. Bello. A tal proposito, cosa ride quel disgraziato? Stiamo parlando di Salto Bay che fa cose. Riveri. Stiamo parlando di Salto Bay che fa cose. Io sto guardando questo, ma sto anche ascoltando. Voi non so che cazzo siete facendo. Fate un bel turno. Sta a me? No, gioca al Flamescal. L'ultima cosa che ha detto è a tal proposito. Niente, io ho fatto il mio turno. Volevo vedere Salto Bay che faceva cose. Qui c'è un dado. Devo migliorare. Che tra l'altro ha fatto 20. Oh, attenzione! È il nuovo modo, allora, di devo migliorare. Il nuovo modo di tirare i dadi diversi sarà questo. Ma che cazzo succede? Sto pegando dei tiri, bastardo! Prova, prova a arrampicare. Lo vedete affacciarsi da sopra e tirare tre simpatici missili magici su Garrosh. Oh, come giusto, anche se il primo, prima l'ha tirato su diverso. Dicio, sono colpiscono su di me. No, su di me, su di me. Giù. 12 danni. Tutti e tre? Missili magici dalla prima edizione che colpiscono in automatico. No, sì, no, dico. È un D4. Ah, tu dici se sparge gli attacchi? No, non è un ritardato. No, non hai capito bene. 12 danni in tutti e tre. In totale. Ma non D4, non è che tipo fa 12 danni con. Cioè, quindi un D4 più 1. Quindi hai tirato 3 volte 4. Un D4 più 1. No, un D4 più 1. È diverso. Comunque hai tirato alto. Ma altre tre. A me prima ho fatto 11. Persecuzione. Guardi, strano. Sì, lo attacco. Sei. Allora, tu sei qui. È a 100 p. Dipende se consideri linea d'aria, perché lui ha cominciato a tornare indietro, ha fatto la curva, ora sta avanzando, sì, verso di noi, quindi però è sopra, 100 piedi sopra, sì, quindi è più o meno a 100 piedi da noi, sì. Lo attacco in che modo? Potresti prendere il tuo arco, vado e sparargli. Avanti, no, è vero. Cosa vuoi che faccia? Potresti prendere il tuo arco e sparargli, ad esempio. Non era così stupido. Utilissimo, veramente utile. Cosa vuoi che faccia? Corro come un coglione. Un movimento colpisce. E cosa? Perdo spazio, no? Ha voluto fare questa cagata e la facciamo. E che quello di. Dove? Niente, seguiamolo, dai, su. Non sai che arriviamo all'abbazia e ci mazzuola? No, non arriviamo all'abbazia, ovviamente. Se vuole andare all'abbazia a colpire i nostri nemici, lo fa. Appena noi siamo partiti, voi la prima cosa che avete iniziato a fare è rischiare la morte. Ci ha svegliato i paesani, che due paesani erano morti perché sto qua gli sparava. Lasciate che ammazzi i paesani. No, perché i paesani devono costruire le nostre difese. Sei a 40 piedi da lui. Ci siamo, il prossimo turno lo becchiamo. No, perché lo posso arrivare lì. Garrosh. E poi si sposta di 40 piedi. Cazzo, non ci ho pensato. Vado a 10. Vado addosso a lui. Perché il quarto turno corro 10 piedi. 70 piedi dritti. Devo sorpassarlo. L'unica sorpassarlo. Arrivi davanti a lui. Così proprio gli arrivo. Esatto. Ragazzi, io gli arrivo così. E poi basta. Ma bisogna sorpassarlo. Io arrivo così, col mio movimento di arrivo. Cioè, dobbiamo metterlo tra di noi, dobbiamo metterlo in mezzo, perché se no lui dopo o va indietro e va in avanti. Sì, in 40. Ma può andare giù nell'altro sentiero. Sti cazzi, noi seguiamo, lo rompiamo e diciamo basta. Spero che lui lotta per bloccarlo. Non lo so, basta fermarlo, qualcuno lo fermi. Cosa che provare a mobilizzarlo? No, lo vedi, è sopra. Vedi, quanto è sopra? Scusa. 100 piedi. Cioè, nel senso, può essere anche sopra 20 piedi, semplicemente. Cioè, la curva visuale. Quindi sono tutti oltre la curva. Sì, avanzo. Sì, tutti oltre la curva. Avanzo. Se provo a mobilizzarlo in lotta, 60. Suoli, forse. E come prima, uno dei paesani avanza, quello che era a 30 da me, avanza anche lui a 60, rimanendo sempre a 30 da me. E un altro di quelli che era rimasto indietro avanza in modo da rimanere a 30 dall'altro. Cioè, muovete tutti lo stesso movimento. Quindi dal prossimo turno, ci sei tu al punto Athanas. Poi sono io 30 da 30 piedi a me, un paesano, 30 piedi a questo, 30 un altro. Ok, per non farli morire sì, tutti sì, assieme nell'eventualità. Va bene, sta a lui. Ma la palla di fuoco riesce a prenderli tutti i paesani. No, perché ha un raggio di 15 piedi. 20 ha detto lui, quindi ne può prendere due, che quindi ha un diametro di 40. Parole arcane escono dalla sua bocca e la sua immagine comincia ad essere sfocata. Il suo teschio diventa sfocato, tutto ondeggiante. E, è ondeggiante, sì, cioè vuol dire che avremo svantaggio a colpirlo. Precisamente, si muove indietro. Cosa fai? Io voglio provare a immobilizzarlo, prendendolo in lotta. Hai un attacco d'opportunità se vuoi, che però non può essere utilizzato in questo modo. Fai l'attacco d'opportunità e basta. Ah, lui si muove adesso. Sì. Ah, scusa, allora sì. Qualifica di avventura. Tira con svantaggio. No, perché... trasformare sì, ma non so come dire, cioè il problema è l'arbitro, quell'arbitro lì non deve più arbitrare in Serie A, cioè non ne puoi dare una punta, cioè, sono d'accordo, cioè devi guardare la partita e dire ok, questo chiaramente non può stare in Serie A, non l'ho vista, cioè, non è ho capito quanto hai fatto per colpire, scusate, 20, questo sì, chiaramente non deve giocare, non deve arbitrare in Serie A, punto, cioè non devi fare altro, va bene, e qui noi viviamo in un abbiamo società, un campionato dove gli arbitri, cioè non sono i giocatori avversari che vogliono fare la giocata contro i campioni, sono gli arbitri che vogliono fare il fischio istrionico per essere in prima pagina, cioè noi siamo prigionieri di questo. Cosa vuoi che faccia, Katta? Lo posso colpire? Tu sei qui, lui è qua, 80 piedi, e ritorniamo al farago. 80 piedi, 80 piedi. Sì. Sei serio? E cosa vuoi che faccia? Correrò. L'hai colpito? Sembri forse sono sgarci, le cose di questo giardino. Ah no, scusa. Però ti dai un più uno in athletics dopo questa prova, cioè lui quantomeno. Cioè, tu come hai fatto a andare avanti? Perché io faccio 35 piedi. Se vado avanti di 30 lo vedo. Cioè facevo, sì, più, ormai sei ancora facevo 10 piedi 20, in più, 150 sei ancora piano di sotto. Avanti a 60 come prima, ci muoviamo tutti. Ok. Quindi arrivi a 180. Oh, sta lui, bene. Hai saltato? Ho fatto l'attacco di opportunità. Solo perché potevi colpirlo. Se è vero. Vai, tocca a te. Quindi a quanto è lui da me adesso? Lui da adesso è a 40 piedi da te. Sei serio? Super. Tu eri davanti che a lui, lui si è mosso di 40 piedi, no, quindi lo a 40 devi superare, piedi. Sì. Così lo mettiamo tra di noi. E poi faccio vedrà, 50 piedi. Ci vado 10 metri. 50 piedi. Arrivi a 3,30, quindi sei 10 piedi davanti secondo a lui. Dove ti conveniva farli tutti? No, falli tutti. Scusate. Falli tutti. Vabbè, era perché se lui si sposta... Se tu fai 70 piedi, gli vai a 30. Sì, va bene, uguale. Sì, sì, va bene, li faccio tutti. E lui va dopo bene, è a 20 da me. In questo momento. Quindi cosa deciderà di fare? Quindi lo sorpassi. Lui non ti può fare attacco d'opportunità perché non ha attacchi fisici. Se invece, aspetta, scusa, se invece gli sto addosso, no, faccio, gli vado addosso, dall'altra parte ma addosso. Così se si muove lo colpisco. Va bene, sei quindi di davanti a lui. Se si muove gli faccio un attacco di opportunità almeno. Ok, a distanza per me è inutile. L'ho sorpassato? No? Sì, sì. Cioè l'ho sorpassato, però l'hai capito? Sì, ho capito, sei davanti sì, a lui. Okay. Allora, cosa fa questa cosa? Qua. Uccidi all'istante il nemico davanti a lui. Ogni nemico allora, che sorpassa il testo deve tirare un tiro salvezza o morire. L'ho tirato. Troppo tardi. Tiro salvezza sull'intelligenza, così. Tiro salvezza su... Slay dove? Sulla nature. Ma non la so. Conoscenza natura. Tanti di quei guarda. Cioè, anch'io allora, so che avevo svantaggio su io. Tranquillo, vedi, adesso abbiamo svantaggio a colpirlo. Lui è qua, 3,20. 80. Quindi lui si muove indietro di 10 piedi. È un attacco d'opportunità. Sì. Cosa svantaggio? Cosa svantaggio? 18. Colpito. 10. Ok. Ma 10. Dopodiché tira due raggi roventi nella, sulla tua faccia di nano. Scioglie. Quanto sei tu di 30 25. Ah. 18 ti colpisce, mi dicono. Sì, che puttana. Sì. Giusto giusto. Almeno i raggi prima che colpisco io ancora. No, questi sono dei raggi di fuoco. Ah, fanno più male. Fanno molto più male. Ah, ok, quindi vado di giù. Fuoco, mi danni 6. Questo è tipo di 8. Quindi vado giù. Beh, devi pensarci tu. Primo raggio ti infligge. Devi venire a prendere più che altro. 10 danni di fuoco. 10. 15. Ovviamente media. Il secondo raggio. 14. Vabbè, io mi fiondo giù. Te lo dico, ti lascio lì. No, basta, ceo sono. E cosa faccio? Vai in ira, attacca. Sì, esatto, vai in ira. Guardi, strano, è a 20 piedi da te. Corro. Adesso è lì, lo attaccante. Io cerco qualcosa di mano dentro e lo lascio al basso. Ma sta prima a te, lo attacchi. Vai in ira, lo attacchi. Non 20, però. Sì. Non lo posso colpire. Perché non lo puoi colpire? Perché no? Fai un movimento e poi attacchi. È a 20 piedi. È a 20 piedi. Ma non ha superato. No, è tornato verso di te. Ah. Fai un movimento e lo colpisci. Attacca. Non gli pare vero. Così, così magari dopo colpisci. Pazzesco. Adesso devo tirare con svantaggio, sì, però. Dai, vabbè, ti è un 18. Sì, sì. Dai, dai. Ah, sto facendo con l'ascia, però. A due mani. Perché? No, era il verso che avevi fatto dopo aver detto a due mani. 10 danni. Ok. Provo a fare il secondo attacco. Certo. Sei ancora vivo? Sì. È ancora vivo, hai svantaggio. Lo manchi. Va bene, Mezzo, va bene. Magari colpisce te adesso. Sta a te, Garrosh. Sì, basta, hai ragione. Va di nire lo mazzuolo. Però devo fare un riposo lungo, cioè a costo di guardarvi combattere. Dobbiamo farlo tutti il riposo quindi, lungo. Quindi mi addormento. Cosa? Non adesso, scemo! Mi addormento sul testo. Ma 20. Non c'è concentrazione sulla magia. Beh, entro nel club, Vez. Hai ragione, Marco. Ma lui ha. Perché ha qualcosa cattivo? Cos'è? Quella cosa per cui attaccate con svantaggio. Ah, è vero. Sì, doveva tirarlo ben prima. Dovevi tirarlo su Sceo. Gli attacchi di opportunità. Sì. Sì. E? Lo perde. Lo perde per quello con quello di Sceo. Quindi. Devo ritirare il mio attacco. Ma la vergogna! Ora, io ho appena tirato i dadi per il mio attacco. Quindi hai fatto 20 e dipende se non c'è più lo svantaggio. Cioè un 20. Fai fai due colpi, uno è 20 e l'altro è 11. Un critico è onesto. Hai due attacchi. Sì. Che problema. Cioè, l'unico modo ho un attacco. Se prima va segno un attacco extra e poi io devo fare un terzo. Aspetta, cosa attacco extra? Sì, è mio, lascia stare. Allora, primo. Ti prendo la copertina. Quindi, il primo è il critico 2 di 6 più 8 13. Il secondo è l'attacco extra, giusto? Hai fatto 13 danni? Sì. Muore. Oh, grazie Pietro. Ho sprecato l'ira così va. Ma io mi tipo mi siedo lì sudato. Ah, tiro 2 di 6 PF temporanei. Sì. Ne avete già 11. Cioè, hai sprecato l'ira? Sì. Ah, è vero, abbiamo tutti 11 punti ferita in più che non ho calcolato. Giulio! E temporanei dati da prima che andassi via. Quanto durano, Marco? Non sarebbe andato in ira. Fino al prossimo rest. No. In effetti no. No. Beh, non cambia. Non sarei andato in ira, cambia. Ira, Giulio. Bravi. Dici che non sei andato in ira, alla fine gli attacchi ne hai fatto. Beh, se facciamo il riposo lungo, in teoria recuperiamo tutto. Sì, sì. Ma io faccio il riposo lungo adesso. Basta, a prescindere dal fare gruppo. Il no, sì. Ma tanto, cioè io ma tutti i dadi vita li ho usati, quindi non proprio. Cioè io adesso ho 38 punti ferita e non li posso recuperare. Quindi non faccio. Aggiunti anche 3 che ho tirato adesso. Ah, scusa, 49. I miei 2 DS temporanei se uccido uno con la lancia. Se io avessi fatto un po' di punti ferita temporanei, non è che continuano ad aggiungersi dalle varie fonti. sono quelli più la fonte maggiore. Ah, cioè anche se le due fonti sono diverse, cioè nel senso, in teoria sarebbero andati via i suoi 11 e tu adesso prendessi questi 3. Ah, ok. E io ho fatto che ti ho aggiunto gli 11 suoi. Ok, fine. Ho capito. Anche se le fonti sono diverse, i PF temporanei non si vedono. Insomma, ti becchi quello che... se no uno magari ha varie cose, vari incantesimi, varie cose, va. Ok, ho capito. Io ho tipo Dark One Blessing. È disponibile un'errata corrige. Per? Io avevo 11 PF temporanei dati da Marco che non sapevo, ora l'ho scoperto, non sarei andato in ira perché non ero a uno. No, li hai persi facendo il riposo breve. Ah, è vero, avete fatto il riposo breve. Quindi non li avevo, quindi ero a uno, quindi ora sono qua. Ok. Molto bene. Ragazzi, voi state galoppando verso l'orizzonte, che non si vede perché c'è la neve. No, oh, finalmente tocca a noi. Sai che devo andare in bagno? Anch'io. So che tocca a te. Però mi devo andare in bagno. Vabbè. Si sposta la telecamera, si sposta dopo la distruzione del teschio infuocato. Oh, goditi il pubblico, non vede. Ok, si alza, cioè, campo largo sulla città. Stiamo uccidendo, si sposta sulla... con le corna sporche di sangue. Tutto quello che è incrociato, esatto. E questo è il problema. Che cosa è incrociata? Allora, di 100. No, quanto era il tempo di percorrenza andando tempo a busso? Di percorrenza, io vado a mannaia busso, sì. Tipo 4 ore sono 3, 7. Quanto quando vado a va veloce? Quindi, già il coso di un cavallo? No, di più. Quindi, se che fa 50 piedi il cavallo e il tuo invece ne fa 60? Sì. Allora, questa sarebbe la strada corta. Verovez, confermi. Il cavallo fa 50 piedi, no? Oh, sembra plausibile. Dei mostri qua. Ma anche se non è un mostro, ma ci sarà il cavallo. Che c'è un cavallo. Cerca mega cavallo. Giant. Elk. Allora, abbiamo detto 60 foot. 5 percorso. Ah, volevi sapere la cosa? Sì, però volevo fargli. Siccome lui fa. Del veloce come un cavallo. L'elk è 50 feet. Mentre l'ors FGH. Quindi. Il cavallo. Invece. Non esiste. Come si chiama il cavallo? È estinto. Non è ors. Sarà. O è Riding, o è War Horse, o è... Cerca cavallo. Com'è che cappa? Riding Horse. Okay. Cavallo che ride? Che ride, esatto. War Horse. War Horse. Però che non è quello che non sai che pensi tu, si muove di 60. Mm-hmm. È il cavallo da guerra. Stanno ancora cavalcando, quindi penso sia uguale anche l'altro allora. Anche quello da cavalcatura. Se allora a posto. Sì, loro quindi sono uguali, non fa merda l'altro. Il percorso corto passando, tagliando per la foresta. Sono 4 ore e un quarto. Il percorso lungo invece è andata e ritorno? Sono andato. Ah, senza ritorno? Senza ritorno. Ci arriviamo fino in capo al mondo? L'ultimo secondo. Quello lungo per il sentiero è di 5 e un quarto, un'ora in più. Segniamo quello corto. La loro mini sigla ci sta. Dello spin-off. Esatto, la sigla dello spin-off. Ah, tagliate per la foresta? No, perché tagliate? Ma perché? Chi è che l'ha detto? Quello corto ho sentito io. Voi cosa avete sentito? Cari, purtroppo è l'arci che guida. Cari telespettatori. Vabbè, ho capito, puoi dirgli anche dove cazzo vai, eh. lo dirai non... Ma vai, Alce? Ma tanto mi puoi rispondere. Alci? Alci. Alci. Dai, l'idea. No, perché mi ricorda la danza delle streghe? C'era un punto prima che era simile. Sì. Allora. Se è ancora giorno, bene. Quindi. ogni 30 minuti. Ma quindi che cos'è, un cavallo o un alce davvero? Che cos'è? Perché parlavate di cavallo? Allora, per fare un confronto con le velocità, ma non la stessa velocità, quindi siamo a posto così. Quindi. Non ho capito, qual è lo svantaggio della via corta? Perché passa attraverso le foreste. E la via lunga? Invece va sulla strada. Tu Marco cosa vuoi fare? Quella corta è terreno accidentato. Quella lunga sarà più tranquilla, io posso trasformare il terreno in terreno accidentato, quindi se qualcosa si segue è più lento di noi. Allora vuol fare la foresta, andiamo per la foresta. No, andiamo per quella lunga. Ok, quindi sono... Cioè, quella lunga quanto è più lunga? Un'oretta. Un'ora. Per cui... Ah, vabbè, tanto mi carichi tu la benzina. Tanto 8 ore le avete. Sì. Sicuro, giusto? Cioè? Dobbiamo riposare, quindi. Due ore di andata e ritorno, quindi andiamo. No. Perfetto. No. Fate... Oh, che bello! Così 10, sia! Tirate un D20 a testa. Oh, un D20 in testa. A chi? A chi ti pare? 16. Ma 19, insomma. Vabbè. La prima ora passa tranquillamente. Vabbè, allora posso che te l'avevo uno. Tiratemene un altro. Beh, è migliorato. 4. Avete entrambi aumentato di uno, bravo. Non incide tu sopra di me. La seconda ora passa tranquillamente. Adesso arrivate quasi al fiume. Bene. Dal fiume all'incrocio. Un altro di 20. 18 e 5. 9. 10. Arrivate all'incrocio, da lì prendete la strada lunga, per la strada però lunga. Si suppone più tranquilla. Mm-hmm. Tirate un D20. Dai Marco. 18. 17. Oh, più of exp. Capito. Marco, tira un D12 più un D8. Sì, dai, abbiamo fatto il numero più alto, canta, non puoi penalizzare. 17. Abbiamo fatto 18. Punto. Un di 12 più di 8. Sì. 7. Sommati 7? Sì, 2 più 5. Ok. Ha riso il master, se te lo sei perso. Accelero. Tardi. Sulla strada vedete 5 vistani. Ma tiro dritto. Cosa farete nella realtà? Stai guidando, ci sono 5 zingari sulla strada. Ma tu mira, razzista. È palese che vogliono derubare Marco. Ci rubano il lavoro. Vedete tecnicamente è vero, hanno rubato un ruolo alle guardie. È vero. Prima di vedere loro ci c'è uno sbuffo di fumo di pipa che spunta dal fumo della nebbia, che si riconosce per un palco strano. e sentite delle risate venire dalla coltre. 5 vistani stanno camminando lungo la strada, sfumacchiando, bevendo da delle fiaschette, non so perché l'ho pensato, raccontandosi delle storie di fantasmi. Vabbè, fanno cenno di fermare. Tenta la via diplomatica tu. Ok. Eldritch Blast. Però al tempo stesso quello che lui ti dice è questo. Esatto. Come glielo dici? Eh? Vabbè, io. Cosa? Tu sai. Guerra ai nemici della mia gente. Dai, io sono tranquillo, quindi lascio parlare Marco. Beh, fai coperte con le loro pelle. Lascio parlare lui. Ha detto lascio parlare Marco. Lui. Perché io posso ancora fare la scena del tipo signore Zingari, volevo dire. Posso fare il triturorso? No, io ancora con l'incantesimo ce l'ho. Comunque. Però non li sprecherei. Se tu vedi che sono ance, vuol dire che sono rilassato. Se divento orso polare, qualcosa può farti capire che. C'è la possibilità di diventare un ma io ancora un evoca animali. Quando vi avvicinate, quello davanti vi dice: buonasera, signore. Che parla così. È un vistano del est. Più ano che è pericoloso andare in giro. Sopra un'alce. Per queste zone. Ma per fortuna avete trovato noi. Per una modica cifra vi possiamo scortare a destinazione. Insomma, se io sto andando in macchina mentre uno dice queste cose. Gli hanno fatto cenno di accostare. Mette la freccia e... Patente e livrezza. Quanto siamo lontani dal posto? Avremmo corso un po' di ore. Avete fatto 4 ore, quindi siete quasi arrivati. Ok, allora io faccio dei gesti con la mano e poi mi apro, così casto illusione minore, poi mi apro il giaccotto e mostro il simbolo di Strad. Ah, credo che dovete pensare meglio alle vostre parole, buon uomo. Oh, io non sono un uomo. Dovresti scegliere le sparse parole da attenzione. Oh signore, non avevo idea che voi foste, insomma, dei fedeli del magnifico, stupendo, bellissimo regale conte. Gli amici che non servono nostra. Come si chiama la cittadina? Vartagrad. Adesso Vartagrad. Una volta si chiama. No, quella sotto attacco. Kresk. Il nostro non ti signore si sta mobilitando per attaccare Kresk. Tutti gli uomini abili sono da... Si è lanciato. Cosa potete offrire voi alla nostra causa? Posso creare un deserto? Divento orso. Sì, certo. Il tipo si è dato. Quando puoi passare e andare allarme, nella tua strada. Allarme. Bravo Marco, ha voluto fare il combattimento facendoci addormentare. Stiamo qua a fightare tutto il tempo, ammazziamoli lentamente. Noi non abbiamo voluto. Eh no, neanche noi. Attacco di stanno. Fallimento critico 11. Vabbè, un 11. Non c'è fallimento critico sulle prove, Marco. Davvero? No, il fumble è solo sugli attacchi. Vabbè, ha fatto uno. Quindi ha un più 10 ad esempio. Complimenti. È schifo, ma come ha fatto 11 con più 10. Va bene, sono un po' disorientati perché dicono: pensavo che una notizia del genere l'avesse data il comandante delle guardie. E si mettono a ridocchiare. Comunque noi siamo stati mandati qua a fare a fare la guardia al passaggio e poi il resto della guardia cittadina ridacchiano ancora risiede a Vaktergrad e conta una cinquantina di uomini più o meno sobri e, ma se volete vi possiamo condurre dal nuova borgomastro, la borgomastra, chissà se si dice borghesia, e dare alla città questa gioiosa notizia. Non credo ci sia tempo, andiamo di fretta. Quindi lasciateci passare, abbiamo cose urgenti da fare. D'accordo, ma state attenti, la strada è pericolosa, soprattutto con questa genere legge. Di pericoli potrebbero esserci. Voi non siete qui ad assicurarvi che non ci siano pericoli? Certo, ma noi purtroppo non possiamo essere dappertutto e queste foreste sono infestate da lupi e chissà che cos'altro. I lupi non sono di strada? I lupi sono della foresta. Marco, te fa schifo andare avanti. E obbediscono alla una sola legge, è quella del loro stomaco, nel quale speriamo di non finirci mai. Sì, gli unici zingari da balotto abbiamo trovato, Invece che buttarci il coltello alla gola e derubarci questi. Finiamo il loro stomaco. Vi prego, signore. Comunque, signore, non ci sto io. Lungi da noi volerle fare perdere altro tempo, solo se avesse magari un piccolo sostentamento per le truppe al fronte. Ah, perché si allunga. Saremmo ben felici di accettare la sua offerta. Siamo noi le truppe al fronte. Allora per le retrovie. Marco, tirali una moneta in testa, se no glielo do io. Non vuoi sapere dove le tiene? Oh, spostatevi. Basta un'offerta libera, ci accontentiamo di poco. Una volta gli zingari rubavano, ora siete talmente pigri che non fate più nemmeno quello. Ora riscuotono le tasse. Ok. Guarda come siete diventati dei veri burocrati. Lancia uno slip di secondo livello. C'è una mutanda proprio. Ok. Credo che sia quasi un boxer. Sì. Arrivo. Cosa lanci, Marco? Dormire. Sonno, anzi, mi sento un sonno. Perché non ci sono qua? Ha funzionato. È super efficace. Il lascio si addormenta. Comunque Marco ha forma animale, non dura 60 anni, Effettivamente quanto dura? Vabbè, le cose che succedono in fretta. 7 ore. Questo drugo saranno dei banditi. Come statistica che temperatura. Dove sono i pianeggi? Poi scusa, non li volevi massacrare? È ancora alce, ancora non è partito l'allarme. Allora, quanto fai? 34. Loro hanno 11 HP, quindi 3 cadono addormentati. Erano 4 in tutto. Erano 5. Quindi gli altri due prendono le armi e si tira l'iniziativa. Oh. Hai fallito malamente, Marco. No, mi ha addormentato i 3 su 5. No, siamo 2 contro 2, non è che abbiamo fallito. No, tu hai fallito, io non ho contato niente. E come orso la prima cosa che faccio è staccarti. No, Marco, tutto questo è exp per solo noi due. Non funziona così, purtroppo. Noi abbiamo un teschio. Avremo quale delle tue exp per trovare. Quali teschi sono? Sono 5. Più femori. Altra cosa. Iniziative vostre. Boom! 5 probabilmente. Probabilmente. Vabbè, non so quanta l'alce in questo momento. Questi mi arrivano in manuale. Dico io. Sei molto. Alce ha destrezza più 0. Sfortuna, quanto hai fatto? Già, da gigante? 14, ok. Gigante. Certo. Gigante? Sì, ragazzi. Vabbè, l'alce base a destrezza 10, dubito che l'alce gigante è ok, preso. Quindi i due in fondo prendono fuori le loro balestre leggere e ti sparano. Dove la prende la CIA? Della costituzione. No. Classe armatura. Decide. Avrà un'armatura naturale. C'è scritto comunque, raga, se mi dai il manuale. Ah sì. No, scusa, hai detto CIA, non è punti feriti. Sparano a me o all'alce? A te, sì, avrà, perché dovrebbero sparare le dure, quelle robe lì. Se lo fuggio farebbe 6 danni se ti colpisce un 18. Sì, lo colpisce. Tocca a te, sfortuna. Eldritch Blaster, Marco, ci pensi pure, cioè. Come uno sa giocare il Warlock. Sì, Eldritch Blaster. Ok. Eldritch Blast! Magari voleva provare ancora a parlare. No, sto pensando di addormentare anche gli ultimi due e poi ucciderli con calma. Però. Potete anche addormentarli e andare via allora. No, abbiamo 21 e 22. Ormai vi hanno visto. Colpiti. Uccideteli. 10 e 13. ne uccidi uno. E l'altro è tipo un punto ferita. Mi ha cambiato. Cosa, hai il coso di caricare, Arci? Carica. Sì, me lo fai almeno. Quanto ha un punto ferita. Ne ha ucciso uno? Ne ha ucciso uno e l'altro ha un punto ferita. Nell'ordine in cui me li ha detti, però. Io lancio e ho questo. Ne ha fatti entrambi su almeno uno. 20 piedi, hai il coso. Li hai fatti tutti su di uno. Giantelk Dex 16. Ok, decide il master. Ok, c'è no, l'altro di 38. Che strano 10. Che l'altro Alci abbia 9. Ne ha 16. Ma è strano. Dex DGS2, l'Alci normale è un topo. Vabbè, però. No, vabbè, no, è un Alci però. È un topo Alci normale. Strano. Che Alci? Allora, la prossima volta che vi rincontrate fate un duello, tu Alci contro la sua Alci. Ok, non comunque, l'altro invece è sano. Di 19, 16, 14, 7 di intelligenza, quindi più di 3, 14 in saggezza, carisma 10, quindi scelgo. Quindi... Sì, è vero. Più di sei più carismatico tu da Alci. Perché quindi... l'Alci è gigante, è una creatura particolarmente nobile, lo dice anche. Bene, dai, attacca. Comunque, è rara dal punto di vista dell'apparenza, no. l'altro che distanza è? 10 piedi. Mi muovo dietro di 10 piedi. Focussalo. E poi chargio. E chargio con le corde. E hai la stessa roba che ha l'alce normale? Sì, si chiama carica. Se l'alce il gigante si muove di almeno 20 piedi straight over the target. E quando ha detto che era 10. Ha fatto 10 piedi indietro e poi caricato. Ah, ci sta. Ci sta, 21 sta, colpisco. Sì. Faccio 2 di 6. Più ah no, 2 di 6 extra. Ah. Sì. Io faccio 2 di 6 più 4. C'hai 1 di 6 di base e 2 più 2 di 6. Cioè oddio, dipende. Ma devo ritirare? No, tu hai il tuo attacco, quello normale del REM. E della rete, sono... e poi aggiungi 2 di 6. Ora sono 4 di 6 più 4. Ok, quindi. E devi tirare sulla forza, Altrimenti è morto. 16 è morto. 18 danni. Ma quanto è morto? No, cioè, non carico quello che è uno di vita, carico quello. C'era solo uno. C'era solo uno in piedi. Non sono terra addormentati. Sì. Li travolgo. Vabbè, dopo con calma per travolgo. Vabbè, ammazzo questo allora intanto. Vabbè. Se si vede che viene sbarra. E poi intorno i quelli addormentati. Ok. Scalpesto. Loro cavolo. Voglio il livello 8! Non credo. Ciao, gli nutriti. Gli intrusi li sbranano. A grufolare dentro. Che fai il critico automatico e. Vabbè, vantaggio per colpire. Quelli che sono addormentati muoiono. Ma è barato. Cos'è Urs? Tradotto? Bram sulle corna. Sono corde, no? zoccoli. 4 di 8 più 4? Minchia, ma è una bestia questa. Ma perché ho attaccato con la corna? Col corno io? Vabbè, ci stava. Beh, hai caricato. La carica è caricata. Ma se carichi, dice semplicemente che tu. Hai più ah, no, è il Ram Attack. Sì. Ok. Devi usare le due corne. Però comunque fai più danni. Minchia, comunque è fortissimo base, quello. Ma l'orso è più forte. Insomma, l'altro faccio 4 di 6 più 4. E lì fai 4 di 8. 8. Appunto. È più forte dell'orso. Ottimizzazione. Alla stessa GS. Bene, cosa fate dei corpi? Li mangio. Nacce. Sì. No, vabbè, Marco, perlustra, li deruba. Lufola li tasca. Per lì perlustro, cosa devo tirare? Va a rubare gli zingari per proprio. Non devi tirare niente, le trovi facilmente i loro borselli. Non e rubare, hanno una riportare le cose, hanno restituire. Esatto. Hanno restituire a me le cose che prima aveva qualcun altro. Delle esatto. Piccole dei piccoli sacchettini con delle gemme. Questi andavano in... Ci sono 5 piccole gemme del valore di 50 monete d'oro l'una. Okay, pure il diritto di cittadinanza. Pure il diritto di cittadinanza. Dopo. Dammeli dopo, cosa mi metti sulle corna mentre corro? Allora mi ritengo tutto. Ti decora le corna. Mettere una rossa sul naso. Così. cosa aveva il teschio come tesoro? Come simbolo della sua casata? Un maialino. Andiamo a correre. Continuate a correre. Per un'ora, in teoria dopo un'ora ritorna, se uno non ci sparge tipo acqua benedetta sopra un'altra cosa ritorna. Via, lancio, e voi cosa avete fatto? Fuoco. E ma neanche con quelli giù. Esatto. Quindi ora sono sì, già per là. Bene. Ma perché non lo sapevo? Cioè, io non posso sapere. Lo so anch'io. Io la spargo sempre. Va bene, correte per un'altra ora, tiratemi un altro di 20. A questo punto facciamo basso, Marco. Uno. Veramente 18. Grande Marco, sei sempre migliore. Tirami un 12 più un di 8. Non ho capito, hai tirato alto. Ok. Affarmiamo zingari, Marco. Stavolta li charge. Stavolta, oh Marco, buona ste caccate, li charge diretti chiunque ci sia. Esatto. Tira un di 100. Tipo avvicinandoti, so già come funziona. Boom. Ancora loro. Buongiorno. Salve, buon uomo. 76. 76. 76? 86. Allora, davanti a voi arrivano 86 vistani in reggimento. Un oggetto lungo la strada attira la tua attenzione. Ah, questo l'ho avuto anch'io una volta. Cos'è? Adesso lo andiamo a scoprire. La mia era una parrucca. Veramente, non vi ricordate? Esatto, quindi c'è. No, forse una trappola per topi. Una volta eravamo tipo in giro. 80. E mi ha fatto tirare e ho trovato tipo i capelli. Una parrucca fatta di capelli. Ed era magico, un oggetto magico. No, era semplicemente. 86, 86? Sì. Vedo che lo fa anche qua. Ma perché hai cambiato versione? Che cos'è esattamente? No, mi ha chiesto se volevo provare la cosa che stanno provando, cioè che stanno, cioè dovrebbe cambiare l'interfaccia. Comunque vedo che ha lo stesso problema che aveva. È il famoso level up, Vex? C'è un calamaio per terra. C'è un calamaro. Sarebbe terra, stato divertente. Watchmen. No, ok, continuiamo ad andare allora. Sì, siamo in diretta. Sì. C'è un calamaio al lato della strada per terra. Tu l'hai presa la parrucca, Giulio, l'altra volta? Boh, non mi ricordo. Dai, non fare metagame. Lo ignoro. Poi non so l'arci cosa vuole fare. Lui non lo nota neanche, in teoria. Sei non degno so. Del tuo nome. Lo nota anche lui. Cosa credo? Sì. C'è un calamaio al lato della strada. E gli giro dritto. Perfetto. Va bene. Arrivate a in prossimità della città dove c'è il villaggio degli elfi. Lo sai che quel calamaio era l'expo per arrivare all'otto? Era in realtà era tipo il calamaio della grande dio. A meno che Marco non si voglia, non mi insista di fermare. No, tiro dritto anche l'ultimo. L'ultima volta che Pat, che era stato qui, si poteva ricordare benissimo come questo villaggio sia stato costruito. Ci sia una serie di case in legno ai bordi della collina. E una volta sulla cima della collina c'era un accampamento di vistani. Adesso l'accampamento non c'è più, rimangono ovviamente le case di legno. Qui c'è una rappresentazione di quello che, in parte quello che vedete. Le carovane e le tende sulla cima non ci sono più. E rimangono le sette case. Abitate dagli elfi, vabbè, posso fare uno screenshot così magari colore. Ok, allora mi metto a suonare intanto che andiamo. Tiro una performance? Va bene. 19. Ok. Scusate, andiamo in questo campamento qua? L'accampamento il villaggio degli elfi con l'accampamento di vistani al centro, che non c'è più perché si sono trasferiti in città. Okay. E Marco comincia a suonare, Sfortuna comincia a suonare. Che cosa suoni? Una ballata molto amichevole. Molto bene. No, ho sbagliato capitolo. Ah, cioè sei pronto ad incornare tutti gli elfi che dovrebbero aiutarci. Ma sei tu che devi gestirti la parte diplomatica, eh? Vabbè, tornerai nano però almeno. No, sono abituato ormai. Quanto dura la forma animale? 6 ore? 7. 5 ore dico che abbiamo corso, ancora 2 ore, a meno che tu non voglia suonare il concerto di fine anno. La prima della scala. Ragazza, sto villaggio di merda, eccolo qua. Ma gli zingari hanno valori di 250 monete d'oro. Hanno un BMW, cioè. Ecco qua. A posto. Bene, le vedi che dal fronte di un albero campo, cioè, esatto, si sono trasferiti. Però in verità non erano amici questi bestiali. Esatto, tra l'altro gli avete salvato la figlia. E, dalle fronde degli alberi si fa capolino un elfo che è attirato dalla tua melodia. La sua figura è longilinea e si muove con leggiadria. La sua carnagione è molto chiara, quasi tendente al grigio. Penso sia la prima volta che tu incontri i elfi crepuscolari. Sì. Che sono appunto questa razza di elfi che vivevano, che vivono ancora per che vivono in questa vallata. A cui piace la vita. In realtà sono grigi perché in questo posto non c'è mai il sole. È un'ottima teoria. Salve amico mio, c'è qualcun altro qui intorno? Buondì viandante, qui sono solo io che faccio la guardia a questa zona dei dintorni del villaggio e non ho potuto fare a meno di ammirare la maestria della sua arte. E mi dica, da dove viene e come mai si trova in queste tristi terre? Beh, vengo da molto molto lontano, in un posto abbastanza caldo, ma vorrei prima chiedere l'ultima mia tappa. Era la città di Kretsk, lei è familiare? Beh, una città che sta ad ovest, vicino al confine. Raramente ci spingiamo così in là, di solito pattugliamo questa zona di bosco per essere sicuri a casa nostra. Strano, mi era sembrato di notare un elfo molto simile a lei, con un flauto. Un flauto, dice? Curioso. Anche perché ormai quelli della nostra razza sono praticamente tutti qua, dato che... Sì, in realtà non è la prima volta che vedo un elfo crepuscolare, visto che... È vero, ho un elfo crepuscolare con le orecchie. Hai visto anche Radin, quindi... Hai visto anche Radin? Due! Ne hai già visti due! Ma in genere è strano perché... Cioè il 10% della popolazione. Tutti, praticamente tutti gli elfi di Barovia, gli elfi crepuscolari di Barovia abitano qua e in genere suoniamo... No, liuti non abita lì. Quasi, ha detto. In genere suoniamo liuti e delle arpe o delle lire. Ma come mai mi dice questa cosa? Ma niente, è inusuale vedere un elfo che comanda dei lupi mannari. Dei lupi mannari, dice, dove? Spero non siano qui vicino. Ah, è difficile dire dove siano adesso. Magari la prossima volta li comanderà in queste aree. Beh, perché dovrebbe? Siamo vissuti qua per tanti anni in pace con i nostri vicini. Non abbiamo fatto niente di male a nessuno. Ha le orecchie questo elfo? Sì. Sa di indicarmi un villaggio, qualcosa dove potrei fare abbeverare il mio alce? Ma certo, prego. Il mio alce. La porterò nel nostro umile accampamento, dove potrà riposare, e se vorrà condividere con noi la nostra arte sarà ben accetto. Noi apprezziamo sempre molto chi riesce a portare un po' di consolazione in questa oscura terra. Ok, comunque questa conversazione può anche avvenire in elfico. Va bene. Ok, tu lo sai, lo dico all'alce di seguirlo. Tu sai l'elfico? Sì. Io so. E senza caricare stavolta. Sì, no, scusami. So il druidico, il nanico, il comune e il silvano. Bel fiore bello. Quindi non elfico. Silvano però è elfico, no? No, è elfico silvano. No? Non so. Forse silvano, gli elfi dei boschi parlano anche il silvano. Sì. No, però è l'altra cosa ancora. Che è diverso dal druidico il silvano, sì. Sì. Okay. E dico un linguaggio che sono solo i druidi. Silvano parla, sarà anche la lingua che sono tipo le driadi. Sì. Forse gli arbusti maligni li devo controllare. Potevamo parlarci. È l'unico che l'ha fatto, se non niente altro. Esatto. Allora forse capiranno in comune. Ti porta di fianco ad una delle case che vedi di fianco alla collina, dove c'è un abbeveratoio e dove la tua alce può dissetarsi, e insieme a lui arrivano altri suoi due simili che si cominciano a chiacchierare con te, a chiederti chi sei, cosa fai, insomma. Che vento ti porta e quali sono la tua meta? Beh, sono solo un umile viandante, però vi porto notizia del fatto di che Kresk sia sotto attacco. È una cosa terribile, ma da parte di chi? Difficile dirlo, Cosa? Una visione orrenda. Non morti, lupi mannari. Oddio, è veramente una tragedia, ma... Catapulte. È da molto tempo che non si sentiva un movimento di forze di questo genere. Deve essere successo qualcosa di eccezionale. Magari dopo arriveranno qui. Magari sareste più sicuri dietro delle mura. Ma qua non ci sono delle mura sufficientemente forti da resistere a un'invasione come quella che descrive lei, e al massimo quelle di, allora la chiamano ancora Vallacchi, e al massimo quelle di Vallacchi, ma quelle sono fatte delle palizzate di legno, niente più, non resisterebbero mai a delle armi d'assedio. E la cosa più saggia da fare sarebbe nascondersi nella foresta e restarci finché le acque non si calmano. Ah, volete nascondervi tra dei lupi mannari dentro la foresta? Buona fortuna. Beh, è la nostra casa, sappiamo come fare sparire le nostre tracce. Per quanto è da molto tempo che non avvengono adesso movimenti o... È da molto tempo che non ho della buona fortuna. Lei come si chiama? Fortuna. Ah, ecco appunto. Quale sarebbe il casus belli di latinum, latinorum, del virtù latinorum, ne faccio nulla di questo avvenimento? Beh, essere sincero non mi è noto, ma sono di un gruppo di avventurieri che ha recentemente preso controllo nella città da questo tumulto e gradirebbero una mano. Molto coraggioso da parte loro, ma hanno difeso e respinto queste orde e quindi probabilmente sarebbero la vostra migliore speranza di sopravvivere. Ma ci sono anche delle donne. Quando dici donne un pochino hanno tipo un momento di, come si dice, sindrome da stress post-traumatico. Hanno ucciso le loro donne, sono state tutte uccise barbaramente. E, nei loro occhi, barbaramente, ma non da me, rivedono quelle scene di guerra e di violenza, e quindi istintivamente si sentono. No, al contrario, si sentono minacciati, ovvero non gli dicono: una volta anche noi provammo a ribellarci e il prezzo che pagammo fu innominabile, e quindi abbiamo imparato a nostre spese a starcene qui al nostro posto al sicuro, tanto nessuno verrà a disturbarci se non diamo problemi. E di grazia, quale prezzo avete pagato? Dovete sapere che in questo villaggio, come in tutta Barovia, non esistono più elfi femmina. Cosa? Questa notizia è totalmente nuova per me. Non ti faccio tirare perché tanto lo supereresti in deception. Sì, signor. Nomi non hanno importanza. Adesso riparte con la canzone. Sono la vostra unica speranza per adesso. Obi-Wan Kenobi. Chiamatemi Speranza. Sono Obi-Wan Kenobi. Speranza per cosa? Non capisco. Da sfortuna speranza. Di minacce all'orizzonte non ce ne sono. Le nostre guardie pattugliano un'area molto. Sempre fedele di nuovo, Marco. Molto grande qui intorno. Per cui non abbiamo un motivo per preoccuparci. Neanche la città aveva motivo di preoccuparsi. Poi l'armata di non morti. Beh, se c'è arrivata forse un motivo ci sta. Non che io sappia. Molte cose non sappiamo, eppure accadono. In questi periodi turbolenti, un giorno sei fuori a guardare il buio e il giorno dopo è il buio che guarda te. No, il buio della siepe. Lo calpesto con gli zoccoli. Quindi, nobile signore, la sua presenza qui è senz'altro gradita, ma la prego di non spargere queste voci, perché se si dovesse sapere che in qualche modo noi abbiamo fatto qualcosa di male, rischieremo di subire le ripercussioni. Beh, non lontano da qui abbiamo trovato 5 persone morte. Non so, sono nel vostro territorio. Noi non abbiamo un territorio. Potrebbero già venire qui. Questo è tutto il dominio del conte. E tutto ciò che vedete è sotto il suo controllo. E per cui probabilmente, se quelle persone sono morte, è perché dovevano esserlo. Condivido questo punto di vista. Ma siete qui, aspettate semplicemente di morire al servizio di Strahd? Diciamo che trascorriamo tranquillamente gli ultimi giorni che ci rimangono senza che qualcuno arrivi a macellare la nostra gente. Diciamo che è quanto di più positivo si possa sperare in questa terra. E lascerete inermi cittadini a morire contro un'armata di non morti senza fare niente? Dov'era Gondor? Che cosa hanno fatto loro per noi, francamente? Beh, hanno donne. Potete ripopolare queste foreste. Beh, signore. Speranza. Sì, signor Speranza. Adesso per noi è un argomento un po' delicato, capisco che magari lei non abbia vissuto sulla sua pelle queste cose. Beh, però gradirei se qualche centinaio di incroci giusti si rifà la genetica, bisogna vedere se è dominante o recessivo. Attimo, qualche centinaio di anni di incroci giusti e non cazzo, basteranno. Fai il chihuahua dal Doberman, cioè nel Doberman, cioè già fai a fare un bel po' di anni in mezzo. Vabbè. E comunque il discorso non è quello, signor Speranza. Non basterebbero tutte le donne del mondo per ripagare e rimpiazzare gli affetti che abbiamo perso. La mia cara Ariel era unica e non ritornerà mai più indietro. E si mette allora a piangere. Non ci spara una freccia da solo. Glielo dici? Sì. E le dice perché sono un codardo e si mette a piangere. Hai fatto piangere. Hai fatto piangere l'elfa. Questo è proprio un errore da principianti. E la prego di riprendere il suo viaggio, signor Sfortuna. Scusa, mi sono confuso. Signor Speranza, di lasciarci al nostro dolore. Speranza, lasci queste terre. Cosa? Quindi lascerete che l'aria di qualcun altro muoia? Comunque, passa un attimo. Noi ti abbiamo mandato lì perché tu dovevi convincere loro a venire dicendo che era un posto sicuro. Kretzke, questo era Alce. Questo era il mandato. Stiamo già fightando. Ci sono perso. Marco, stai a fare di diplomazia? Non posso lasciarti solo 2 secondi. No, quanti sono gli elfi con cui stai parlando? 3. No, non c'è pericolo del fight. E uno sta piangendo a terra. Uno viene per gli zoccoli, no? Sono codardo. Ho paura di parlare. La nostra gente ha già pagato un tributo troppo alto. L'unica cosa che anelliamo è passare in tranquillità i nostri ultimi giorni. La prego di non disturbare la nostra pena. Basta, non mi interessa cosa volete voi. Ora cosa voglio? Nessuno che chiede cosa vogliamo noi. Invece. Marco, tu sei stato mandato lì perché hai carisma alto, puoi fare un sacco di cose, vedi che farle. Quanto è grande la foresta? Oddio, è tutto il verde che vedi nella palla mappa, di non fuoco. La mappa, non esiste però più una foresta per cui piangere, forza! Che se no andavamo io e Vez, cioè. Che sono sì, esatto, già rodati di contrattare. Almeno Vez parlava, io menavo, cioè la cosa era semplice. Si bilanciava. Che cosa vuol dire la tua domanda? La foresta è tutto quello che avete intorno per chilometri, nel senso. Qual è lo scopo di questa domanda? Marco, non puoi fare un deception di persuasion, di venire a deception. Se verrete a Kretzke ci aiuterete, vi riporteremo in vita tutte le donne che vorrete. E riavrete le orecchie, tutto quello che vorrete. Ci ho già provato. No. Prova, di che cazzo ce ne frega ormai, spari incazzate, tanto moriranno. Persuadili. Charmali, fai qualcosa, insomma. Parla col capo e chiedi chi è che comanda. Avete un concilio qualcosa? Beh, da quando abbiamo cacciato Casimir, proprio perché ci proponeva di prendere le armi contro il conte. Ah, e... di cosa? Terribile. Esatto. E, abbiamo eletto il più anziano come nuovo capovillaggio. Quindi Casimir era il vostro capovillaggio? Sì. Hai conosciuto Casimir? No. E come sai il suo nome? Me l'avete detto? Me l'ha detto te. Effettivamente stavo... Ah, ok. Ah, oh, già. Sì, era un saggio e anche un potente mago. L'abbiamo esiliato perché non potevamo permettere che le sue idee pericolose attecchissero, soprattutto magari tra i più giovani e irruenti di noi. Guarda, ti ha detto da chi partire. Dove sono questi giovani irruenti? Fuori a caccia. Sembra aspetta la sera, fai una performance d'arte e convincili. Funziona così. Possiamo aspettare io e il mio fido compagno qui con voi. Saremmo. Se proprio dovete, vi chiedo però per favore di non. Di non infierire sul quello che è già il nostro triste destino e di mantenere la riservatezza su questi argomenti geopolitici, diciamo. Quindi Marco, questi qua vengono con noi, no? Non ho ancora capito. Forse dobbiamo ucciderli. Perché vengano con noi. Se volete potete ucciderli tenendoli a zero di vita. Tenere qui l'alce e alloggiare insieme a noi per questa sera. Io non sono un alce, niente, un e prendono, si mettono in guardia. Oddio, che cos'è? È orribile. Signor Speranza, che il suo alce, perché è diventato un nano? È un alce nano con a cavallo io sono un alce, ma quando voglio posso trasformarmi in un è un alce magico. Oddio, non pensavamo fosse uno strano potere di muore in questa terra. Sono un druido alce e la mia forma animale preferita è il nano. Salve signor druido, ma aspetta, mi sembra di averlo già visto, signor ritorso. Sì, è vero. Vi conoscete come infatti mi pareva. O forse come serpente gigante. Aiutami, Fingol. Era insieme a. Basta con queste cose e inizio a suonare. Fingol bell. Faccio un 27. Di intrattenere. Basta con queste cose. E che cosa suona? Ti avevo già visto a me questi elfi. Quando siete venuti qua con Casimir per andare dai Vistani. Beh, allora. Guarda il cazzo questi miei. Faccio una ballata gioiosa e inizio a ballare. Balliamo tutti insieme. Così non becco nessuno. Hai fatto, hai detto? 27. Ok, cominciano a ballare con te dimenticandosi del nano alce. Genitore 1. Sono pazzo. Sono un alce. Un orso. Sono un nano. Sono un druido. Forma animale 1. Come dici, Marco? Fai il pifferaio magico e ti conduce a Kretzka. Hai detto così, veramente? Esatto. Cos'è che hai detto? Faccio il pifferaio magico e mi conduco a Kretzka. 5 ore di... Quando, anche che ci due, loro sono a piedi. Riesci a farli arrivare fino a metà strada tra la loro casa e il limitare della foresta, poi si fermano e cominciano a guardarti interrogandosi di che cosa tu stia facendo. Zitti topi, seguitemi. Devi portare tutti gli elfi, non tre elfi, Marco. Sì, ma anche noi servono decine di migliaia. Vabbè, non capito. Sì. Vabbè, Marco, ho capito che tu la tua diplomazia. E non so cosa dire, che quanto serve la vostra popolazione. Marco, te l'ho detto, aspetti la sera, fai la performance, convinci almeno i più giovani e poi venite. Io catta. Almeno uno non il carisma, cioè, a parte che la prossima volta mando Garrosh, cioè a questo punto. Noi... Tu hai voluto andare lui, eh. Dico, pensavo no, fosse meglio. La situazione. Loro sono contro Strad, no? Allora, la loro situazione è. Sono stati talmente menati male. Dai vistani? Da Strad. Che c'hanno paura, una paura bestia. Ok, allora diciamo, possiamo fare uno scambio. Voi ci aiutate in questa, diciamo, prima battaglia contro Strad. Ma non nominate Strad! Allora, ragazzi. Allora, quando siete partiti, noi abbiamo detto che dovete convincere gli elfi a venire qua. Perché Kresk è un posto sicuro per loro adesso. Ah, ho detto questo. Quindi cosa dovete fare? Rendere il loro posto insicuro. Esatto. Allora dico, non avete sentito che le previsioni. Sembra che ci siano decine di lupi che possono arrivare da un momento all'altro e sbranare i bambini di questa zona. Guardi là. Mamma! Lupi, le nostre guardie le avrebbero visto. Dove avete visto? Nella tua bocca. Beh, guardi là. E lanci. No, però dico, non sono zone così sicure, mentre a Kretsk abbiamo molti uomini. E in più abbiamo tutta la nostra compagnia: maghi, stregoni, guerrieri, abili, paladini. Insomma, non siamo sprovveduti. Bene, sono contento per voi, ma questo è un posto sicuro. Questo è un posto sicuro, ma ha visto la mappa dell'accampamento? Sono quattro baracche senza nessun tipo di. Noi stiamo parlando di una città con le mura. Fortificata. Ho presente. Allora, posso fare uno step. Mi puoi dare una cosa bambi che in modo che quello che dico magari ho dei bonus. Potete aspettare la sera a convincere almeno i più giovani. Beh, tanto che stiamo parlando con loro. Faccio un tiro su diplomazia. Capito? Ma sono tre. Dicendo che appunto la città nostra è fortificata, abbiamo risistemato le mura, abbiamo cibo, vino. abbiamo il vino. Quello è vero. Quindi tiro una diplomacy. Con 13. Vantaggio, ha detto vino. 13 comunque. Senza svantaggio vorrei dire. Marco, mi puoi dare la cosa baldica per favore? Gli do vantaggio, no? No, non vantaggio, non è. Mi puoi dare di 4 che l'altro di bardo? Ispirazione al massimo. Non è un D4 cos'è? È solo un D6, cioè sì. Beh, ho capito. Ho fatto 13 più 6 più 3, 16. Meno 1, 15. È da tanto tempo che non beviamo del vino. Cioè davvero le donne no al vino sì, ti fanno persuadere così sta gente. Ah sì, in sto posto il vino va. Sì, devi perché sapere bevono talmente tanto che dopo va bene anche gli uomini. È l'unica consolazione di molte persone in questa terra. È un po' come la Russia. E appunto per le donne ti ho appena detto che non è un discorso di carne, è un discorso di abbiamo buttati fuori dalle Olimpiadi. Cosa? No, bevono perché vivono di merda. Ah, ok. Ecco. Vabbè, io propongo il vino, le mura sicure e i vostri figli potranno crescere in un posto. Come fanno a fare figli se non hanno donne? Vi venderemo anche dei bambini. Alloggiate. Comunque, dai, non tutti sono stati sposati. Alcuni sono stati giovani e non avrà avuto una ragazza. Quindi si potrà. I giovani che sono a caccia, forse. Per quello dovete aspettare la sera. Venite a riposare nella nostra umile dimora. Grazie a Dio. Andrò a chiamare il capo villaggio. Anche se noi dovremmo poi ripartire domattina al più presto, no? Beh, sì. Sì. Okay. Lo chiamerò all'alba del terzo giorno. Comunque, ormai tra una cosa e l'altra, voi avete fatto 5 ore di viaggio, un'ora di riposo lì, qualche cazzatina. dalle 2, 14 più 5, sono le 7 di sera. È il crepuscolo. Che stagione si chiama? Sembra la stessa sto posto. Vabbè, sì. Quindi no, era per dire che ora sono. E vi fanno alloggiare al caldo dell'oro luci. È un po' meno grigio di ieri. E no, vabbè, la durata del giorno. Tempo un'oretta e arriva il vostro amico di prima. Si chiama Silvafil. Farmaco. Tra le morroidi. E vi dice che è arrivato il capo e insomma sta, c'è la sta radunando tutto il villaggio nella sua abitazione, intorno alla sua abitazione, per diciamo il, come si dice, passare insieme la serata e cenare per il banchetto per la cena. Quindi dove non hanno potuto le donne, ha potuto il vino? Sì. Ho sempre detto che la figa è sopravvalutata. Oh! Ah, già dopo 20 anni è ridicolo. Ok. Arrivate nella la casa che sta in mezzo, quella che dà verso est, e intorno vedete radunati altri elfi, tra chi è tornato dalla caccia con qualche cervo, chi sta mettendo su il fuoco per cucinarlo, e ce n'è uno appunto un po' più anzianotto degli altri, con un buffo copricapo in testa, che intuite essere il capo villaggio. Vi saluta, vi dà il benvenuto e vi invita a cenare con loro e a condividere i vostri racconti e le vostre storie, e insomma di fare quattro chiacchiere per così, per passare il tempo prima di andare in branda. Mi stai facendo la rassegna stampa di sta giornata. Cosa fate? Partecipiamo al banchetto. Sì. Bene, vi sedete e vi vengono servite dei cosciotti di cervo. È la mia famiglia! Questo cervo è buonissimo. Il mio agio può essere suscettibile a questi cibi. No. Quando bisogna mangiare, bisogna mangiare, purtroppo. È la legge della natura. Io rispetto la natura. Per questo ho costruito un parcheggio l'altro giorno. Comunque devo dire che con questo cosciotto ci vorrebbe proprio un bel bicchiere di vino. Peccato che questo vostro non ci siano. Già. Ma che cosa ci puoi fare? Potreste venire con noi a Kretzk, l'Iluva Kretzk, su Yalb, e puoi fare il vin senza problemi. Lì i bambini crescono e diventano grandi. Ricordami di darti svantaggio a qualsiasi cosa fai. Alla fine sempre. Il presente sono con te, Dracula, ninja, a parlare. È buona questa che track. Tra l'altro anche lo scenario per mai essere possibile. Esatto. No. Ma l'uva non può crescere a Kretzk con questo clima. Abbiamo chiamata Kretzk solamente per la insistere su questa cosa. Comunque io sono un druido e abbiamo potenti maghi e stregoni che sono capaci di ottenere il vino. Ah davvero? E in che modo ci riescono? Segreto industriale. Schiacciato. Abracadabra. No, in realtà siamo riusciti a impossessarci delle vigne e di alcune partite di vino. Ah, scusi, questa qua mi dà la testa. Sono abituato col vino. Quindi. E quindi che ne è della vecchia vineria del mago delle vigne? Quali soldi? Sì, solo quelli. E in realtà adesso si trasferiscono anche loro da noi. perché quello non è un luogo sicuro. Saprai dei maligni. Quelle specie di arbusti che crescono ai lati delle strade. Sì, di solito stanno lontani dal nostro villaggio e quindi non si vedono. Però alla vigna si sono fatti vedere come e sono riusciti a salvare. Si trasferiscono da noi a Crezzi. Siete dei prodi guerrieri, deve essere stata un'impresa a dir poco eroica. Ma raccontateci come avete fatto. In realtà abbiamo fatto, ci sono state diverse peripezie, diversi combattimenti, abbiamo avuto... Cos'è che c'era dentro la vigna che avevamo preso il comando? Quella specie di coso grosso che abbiamo buttato giù. Coso gigante, era un albero rianimato, no, era tipo una statua di legno rianimata da strada, però non gli dire strada. No. Vabbè, abbiamo dovuto combattere contro una sorta di albero gigante posseduto che dava potenza ai vari maligni e che li animava. È terribile. Mentre noi combattevamo, un nostro compagno correva alla ricerca di una lancia. Quindi abbiamo anche combattuto con un uomo in panchina. Aveva aperto la testa, probabilmente l'avrei persa anch'io alla vista di una cosa così agghiacciante, ma per fortuna che qui queste cose non ci sono. Alla fine si sta bene anche qua, dai. Non ancora. Per ora sì. Peccato però che non abbiate delle mura. E del vino. E del vino. La protegge. Beh, le nostre come mura... si suol dire, da noi druidi si usa il proverbio, l'unione fa la forza. E il vino. Ma vedi. Quindi volevamo invitarvi a entrare nelle nostre mura. E si dice anche... Dove potremmo abbinare questi bellissimi cosciotti elfici, e volevo dire di cervo, a del buonissimo vino. E gustarsene in sicurezza. Ah, Arci non si chiede mai al primo appuntamento. E poi guardi qua sotto, è pieno di lupi. Vedi, signor Pack, le nostre mura sono già tutte intorno a noi. Gli alberi ci danno la protezione di cui abbiamo bisogno. Ormai, quindi, che sarebbe servito a conoscere dire queste cose a un druido è una pugnalata alle spalle. Pensare che voi la natura la usiate come scudo. Tra voi viviamo e le simbiosi. Lei protegge noi e noi proteggiamo lei. Strano. Quindi insomma voi volete stare qua, non c'è modo. Eppure non mi sembra che vi stia proteggendo da quest'orso. Potremmo fare una sorta di scambio. Cosa vi può servire a voi? Ma la cosa a cui più anneliamo è la tranquillità e non venire trucidati. Su questo vedo che posso accordarci. E sgosto un altro. E fortunatamente riusciamo a vivere in relativa quiete da tanti anni. Il problema è che se dovessero passare o dei vistani o degli uomini di strada da queste zone, non avete modo di difendervi da soli. Ma i vistani sono nostri amici. Ci abbiamo convissuto per tanti anni, adesso purtroppo sono stati richiamati a Vallachi, non sappiamo per quale motivo. Quindi non c'è più nessuno che vi protegge. Ci hanno lasciati da soli, però speriamo che ritornino presto. Possiamo diventare noi i vostri nuovi amici. Sfortuna, ti risulta che gli stanni siano amici degli No. Abbiamo incontrato 5 vistani venendo in qua. Ma erano tutt'altro che amichevoli. Oh, beh, hanno certo un'indole un po' espansiva, diciamo, e hanno il brutto vizio di cercare di avvantaggiarsi dei viandanti. Ci hanno detto che avevano voglia di orecchie di elfo, sapete cosa significa? No, non capisco che cosa... e perché avrebbero dovuto dire questa cosa. Ti dice così tanto. E mi sembra quanto improbabile abbiano pronunciato queste parole insensate. Ma vi prego di continuare a godervi la serata. Ora andrò a concludere la cena, il nostro banchetto con le nostre preghiere rituali. Dove alloggeremo noi per la notte? Siete ospiti di Silvafil, mi ha detto. Potete alloggiare nella casa dove sta lui e i suoi, quelli del suo gruppo. verso. Leggi WhatsApp, Marco. Sud ovest. E tu in che capanna alloggerai? In quella ad est. In okay. Basso. Va bene. Lui è il capo. Lui è il capo, il nuovo capo villaggio. A cui conoscete perché è più vecchio e ha un buffo cappello. Fregati il cappello al simbolo del capo. Ma io il capo, festo! Sì, io dico, intanto la ringrazio e la prego di accettare questo dono in cambio dell'ospitalità. Da una fiala di profumo. Giulio, guarda anche te. Dammi una gomma. Che non mi arrivano queste cose. Questo è quella è una gomma. La cancella? Beh, sì. Tanto buco. No, è per leggere. Mamma mia. Il buon sangue non mente. Esatto. Beh. Non potete camuffarvi del tipo. Come mai questo Vez, piano però? Vez, ma come se mandavamo loro due? Il villaggio era già bruciato da ore. La mia prima opzione era quella. Non c'è più un villaggio dove stare, forza! Tornavano indietro, loro due dicevano: ma di elfi non li abbiamo trovati. Tornavano con le teste di elfi. Quanti abitanti ci sono nel villaggio più o meno nella festa che abbiamo visto? Le teste una, degli elfi sconfitti. Più o meno sono una ventina. Ventina, possiamo ucciderne un terzo subito? No. Anche? Vabbè, ecco, fate così, va bene. Sono sette case. Cioè, per dimostrargli che non è un posto sicuro, voi uccidete una parte di casa. Nuovo. Vabbè, no, forse. Sì, Mario, a me sembrava abbastanza esplicito. Lui ha detto che l'unica paura che hanno è non vivere in tranquillità o essere trucidati. Noi possiamo fare un buon connubio delle due cose. Esatto. Cioè, se non riuscite proprio a convincerli, bardo. Io più che. No, ma tu hai fatto quello. Hai fatto molto più di quello che potevi. Tu devi essere solo un mezzo di trasporto. È lui! E gli ha detto di non estinguere la specie. Non era sì, ma l'hai detto a tre. State facendo la cena con tutti. Dove ci sono i giovani più irruenti. Vai, sì, Mark, vai a far balotta con i ragazzi. Vai a far balotta con i ragazzi. Uno, cioè, non vuole essere trucidato. Che pretese. Tutti prima o poi, cioè. A morte. È normale se tu ci date vent'anni. A parte di tutti questi saranno più che centenari. Ah sì? Sono io. No, lui è più anziano, quindi sarà più che centenari. Sì, lui ovviamente sì. Impegnato. Bene, sfortuna, cosa fai? Beh, provo a fare un super concertone fuori prima di andare a letto. Ok, che cosa suoni? Pioggia di castamere. Ok. Beh, mentre lui suona, io evoco dei lupi intorno al focolare in cui balliamo. E? E mangi bambini! E dico ai lupi di ballare. Facciamo balla coi lupi e facciamo tutti un mini un testo dopo andare a letto e recupero i cantelli, quindi posso fare e facciamo delle gran balotte così tutti quanti così fa spettacolo e dico ai lupi di ballare suonando musica. No, possono fare. Sì, possono fare, vediamo se vengono un po' di lupi. Va bene. Poi potete fare una performance con vantaggio dato dai lupi. Vediamo quanti ne arrivano. Tre lupi più i leodocorni, le altre cose. Il mio di 8. 18 con vantaggio? Sì. Okay. Balliamo sia io che i lupi. E sono molto colpiti dal vostro spettacolo. Normale, e il capovillaggio ti fa un dono. Ti dona un corno intagliato molto finemente decorato. E ti dice: hai portato un po' di sollievo nella tristezza delle nostre esistenze. Tutti i giorni ha creato questo, si fa tutti i giorni. Stacci, dai, okay. Questi rituali per le chiamati complimenti a lui. Questi rituali per che sono evocato dei lupi a lui. Cocca e mignotte tutti i giorni. Per la giornata e per vivere in cordialità, Kretzk... Ah, il vino, la donna, la musica. Sono tipici. Vino, cordialità, balli, donne, soldi, potere. E ogni tanto un po' di guerra. Per rompere la monotonia. Un po' di assedi. Quella. E se si troverà in difficoltà zombie, in queste terre, mongrel, può suonare questo corno, se cioè ci sarà un elfo, svoltata. Un elfo nelle vicinanze, verrà in suo aiuto. Se ci sarà tipo che se mi schiude la porta del bagno sole, mi sente quella a 20 metri, o se siamo nella nostra foresta dove pattugliamo noi, che è nella zona intorno a Vallacchi. Vabbè, tu hai il corno per chiamare i Mondi, lui ha il corno per chiamare un elfo. Cioè per chiamare gli elfi che si perdono nella sua zona. Catta, perché io ho scritto cacciatore di mostri nella scheda? Perché sarà parte del tuo background. No, è nell'equipaggiamento l'ho scritto, non è il mio background, è 7-3-4-3. Perché Monster hai... Hunter Pack. Monster Hunter Pack, sì. Ce l'abbiamo. E cosa fa? Niente, hai delle torce, un martello con dei paletti di legno, dell'acqua santa. Grazie mille per questo dono, è apprezzatissimo. Sputa sopra. Berrò il vino qua dentro. No. Mi butto. se proprio non riuscite. Però la notte porta consiglio, provi a pensarci alla nostra offerta. Avremmo abitazioni per tutti voi. E rifletterò attentamente. Sì, perché tanto stiamo decimando la popolazione, mi devo pure, quindi c'è posto per tutti. Ah, non è una descrizione, che sono stato da Auschwitz. Rifletterò attentamente, bene. Quindi la serata passa tranquillamente, voi entrate con i vostri spettacolini e col calare delle tenebre ritornate, ognuno ritorna ai propri giacigli. Ok. Che cosa fate? Per uscire. Ok. 25. Nessuno ti nota. Dovevo andare tu? Cosa? Vuoi bruciare veramente il villaggio? Sì. Beh, così sembra un luogo non tranquillo, mi piace. Possibilmente puoi bruciare quella dove c'è Arci dentro. Ma aspetta un attimino. Non è la stessa. Che poi io chiamo il corno e dico aiuto, la capanna brucia. Bene. Ci sono altri tre elfi nella capanna con voi. Ma lui sta uscendo però. Lui ha fatto uno stealth per uscire. E io faccio malotta con i tre elfi per un po' di strada. Mm. Quindi ma sta dormendo, non devi fare lotta. Sta dormendo. Siete tornati nelle case per andare a dormire. Ma tu esci quando loro dormono? Penso la sua idea fosse quella. Sì. Ah, allora ok. Sì, sì. Ok, sei fuori. È notte. Quanto vedi al buio? Non vedo il buio. È buio. E ovviamente batti contro una capanna. Come al solito c'è la nebbia e io oscuro visione. Fa freddo. Ma tu stai dormendo. No, beh, se so che devo uscire per bruciare la capanna, direi che non sto dormendo. Gli hai detto che volevi fare questa cosa prima di andare a dormire. Sveglio Arci. Pacco. Sto per andare a distruggere. Sfortuna. Che cazzo? Dimmi. Non sarebbe il segnale se non fosse più un luogo sicuro questo villaggio. La pazzia. Certo. Per lui. Mi sono detto. Cosa possiamo fare? Non lo so, io il massimo che posso fare adesso è spendere un incendio che hai appena piccato, pazzo furioso! Uccidere nella notte i nostri tre compagni di stanza, meglio. Tu hai dei migliori. Dei migliori. Possiamo andare fuoco al villaggio. Giusto. Come? In che senso? Giusto dove? Io vedo nel buio, se vuoi posso andare io. L'importante è che non arrivi il fuoco alle piante e agli alberi. Tu dimmi cosa vedi. Da quando è la nostra foresta. No, io direi di bruciare una capanna meno problemi, cioè con meno persone, quella che eventualmente ci scappa il morto, ci scappa due anziani. Insomma, se ancora tutte le capanne ne prendiamo una a caso. E poi suoni il corno e spegniamo il fuoco. immagino Arci che va in giro tipo per la foresta e fa: presto, presto, salvatevi, rimanga indietro, le piante che non si possono muovere. Ma vabbè, si può fare. Cosa vedi fuori? Io vedo tutto, vedo bene, io al buio. Non lo so, 18 che metri, scura visione. Fai scura visione, quindi vedi come se fosse luce fioca nel buio. Questo comunque ti porta lo stesso ad avere svantaggio ai tiri per perception. Va bene. Vabbè, ho capito, però vedo che non vado a sbattere contro la capanna perlomeno. Vedi fino a... cos'è, 10 piedi? Beh, un po' vedo, Marco, però faccio strada. Ma tu con cosa vuoi bruciare le capanne? Io posso fare fuoco. Bruciare. Va con bene. L'acqua, basta. Effettivamente con le capanne bruciate non hanno più un posto in cui dormire, devo venire da loro. Ma io posso bruciare, dico, quella dove siamo noi da dentro. E poi vediamo. Aspetta un attimo, io busco. Vabbè, che parta il fuoco, proprio una capanna che siete voi. Sì, esatto, è un po'. L'ideale sarebbe che prendessero fuoco due capanne in due punti diversi e noi corriamo dentro la nostra e facciamo finta di dormire. E quando arrivano le grida ci svegliamo. Ok, allora vado a gattoni a caso in una direzione. Mi conta qualcosa. Ma scusa, c'è lui che si guida. Vado a gattoni a caso in una direzione. E io, sfortuna, dove sei? E uso messaggio per comunicare con Archie e farmi guidare. Vabbè, io gli indico la direzione di là. Ma quale siamo, catta di queste cose qua, scusa? Siete in qua. Io gli indico questa. Gli spiego come andare. È una cosa molto semplice. Gli spiego come andare lì e come. Però mi piace. E come bruciare. Cioè, nel senso, la direzione per non beccare niente. Magari vado prima un po' in una scoperta. Salta a piedi. Come bruciare. E dopo provo ad appiccare fuoco in questa qua lontana. No, ci penso io al fuoco. Ah, ok, vabbè, allora dico questa, gli dico dopo come arrivarci. Beh, allora ti accompagno, scusami. Lo scorto fino a... No, perché io ho fatto 25 stealth. Ah, ok. Infatti, tu sei riuscito a uscire senza farti notare. Tu? Stanno dormendo con gli altri. Gli elfi sono in trance, lì non dormono. Gli elfi non dormono. Ah, li ammazzo allora. In questa campana sono sbranati ai lupi, il fuoco nelle case, questo posto. Ma Marco, mi puoi dare un'ispirazione per uno stealth? Ti sei dato l'ispirazione, il mio stealth non esiste. L'ispirazione la fai solo con la chitarra elettrica, non fai un'ispirazione. No, un air guitar. Vabbè, allora. Vabbè, io magari dico: esco un attimo che devo andare in bagno. Ma fai un tiro. Vabbè, puoi anche non dirlo. Cioè. Vabbè, sì, alla fine faccio, però comunque cerco di non disturbare, perché se uno va a pisciare fuori, giustamente non è che si alza con i piatti. 15 più destrezza 17. Ok. Sono. Veramente. Esatto. Si sveglia. Si sente la piscia che sfiora l'erba. Anzi, trasformo in rinoceronte, così la piscia la sentono bene. Stavo per dire. E poi guido Marco alla capanna più vicina. Uso messaggio per farmi guidare da Archie. Andando di soppiatto. Bene, Archie, quanto hai di... fammi un perception. Ho più 6, Boom. Vedi i peli del pube del capitano che sta dormendo nell'altra capanna qua. Vedi che si stanno avvicinando nella direzione di sfortuna due elfi che stanno facendo un giro di ronda. Cioè, vedo che per sbaglio o l'hanno visto? Non l'hanno ancora visto, ma tra poco arriveranno. Con messaggio tu comunichi a me, ma io non comunico a te. No, anche tu comunichi. Mi puoi rispondere dietro. Ah, e allora gli dico, lo guido, e quindi dico: due elfi sono nella direzione tua, posso dirgli tipo vira di qua, così li eviti? Sì, ma anche gli elfi hanno scuro visione, quindi... Beh, non è stealth, però. Lui è nel... Tu sei invisibile? No, sono nascosto. Dove? Cioè, tu sei su un prato senza nessun oggetto che può nascondere la tua persona. E puoi aggirarli in una capanna, cioè tu giri intorno a una capanna mentre loro sono dall'altra parte della capanna. Cioè loro non stanno, lui... stanno arrivando verso la sua direzione, no? Sì. Non riesce per tempo ad andare dietro la capanna. Lui è nel, lui sta facendo il tragitto tra una capanna e l'altra. E lo, tu, dato che hai, sei riuscito a vederli, dato che hai scuro visione, quando hanno superato la, la capanna in cui lui deve andare, stanno venendo verso di lui. Quindi tra loro due non c'è nulla tranne l'oscurità, quindi tra pochi metri okay. lo vedranno. Allora io comincio, comincio a passeggiare per entrare nel raggio visivo dei, degli elfi, di entrambi okay. gli elfi. Beh, però avvisano. Sì, comunque no, quello gliel'ho detto, che due sono faccio un diversivo. E magari lui fa tipo un'illusione e li attira da un'altra parte. Ok. Vabbè, quando, e... quando vedo che sono tipo a una certa distanza, alzo il braccio. Va bene, prima dato che lui è più avanti, prima loro vedono lui. Chiaramente vedono una figura nel, nel buio, per cui mm-hmm. prendono le frecce, le incoccano e gli intimano fermo là, chi va là. Io alzo, io alzo il braccio. Non avremo gli elfi dalla nostra. E forse neanche il ballo. Però dico, fermi, fermi, sono, sono io. Io chi? Sono Pat, il nano. Quello che sta. Cosa ci fate qui fuori a quest'ora di notte? Vincendo il vostro viaggio. Ah, ok, io posto allora. Ci fate chi? Loro vedono lui, è lui che non vede loro. Cioè, loro vedono chiaramente che lui è sfortuna. O vedono una sagoma un po' nel buio che sta gattonando. Cioè, quello che dico. Vedono una sagoma, poi tu hai detto sono io, quindi ti riconoscono. Esatto. E io però dico, voi due chi? Il tuo qui è, tu e il tuo amico. Il mio amico è nella capanna che dorme. Non ho amici. E allora questo chi è? Tu chi sei? Fatemi andare a controllare. Cioè stai smollando lì il bar? Non malamente. No, sto cercando di... vai, ti copriamo. Mi raccomando, non fate fuoco. Vado lì. Certo, e tu stai fermo, non muovere un muscolo. Non ti muovere. Vado e... cioè, vedo ovviamente che è lui. E gli dico... non sei anche... corri verso... corri a caso e io dico, dirò che tu sei un mezzo animale. Tanto perché lui, se in teoria lui corre, loro vedono peggio, perché già lo vedono come una sagma, più si allontana più lo vedono meno. Ma scusa, scusa, aspetta, okay. Lui è pieno di cantrip perché può fare un sacco di cose, cioè. Infatti quello ce lo pensava lui, io ti dico come cosa farei io, visto che, perché lui lo vedono bene, quindi io ti dico sta cosa qua, poi tu Marco vedi te. No, è abbastanza divertente così. Loro hanno le frecce incoccate, quindi poi, sappi che... Ah, io tiro fuori... Se lui corre, loro sparano. No, tiro fuori l'accetta e faccio finta di colpirlo, tipo, per mandarlo via. Cioè, e io dico... vedo qualcosa o è tutto totalmente buio? E ti dico di correre dritto per dritto. Cioè, a meno che non sia un muro. È buio per te, perché è di notte, siete di notte. No, io so che è una prateria, quindi dritto per dritto non becca niente lui. Ma quindi, che so, neanche la luce delle stelle o della luna che possa iniziare a vedere qualcosa. Non è sufficiente questa, è anche perché in questo ridente ridente paesino il cielo è quasi perennemente occupato da nubi e... Quindi non vedo neanche lui, io potrei iniziare a correre e sbattere contro una casa. Ah, beh, tu, no, se, beh, tu senti i passi che di lui che si avvicinano e la sua voce... Ma li... non lo vedo. Non lo vedi, no, però... Però senti che io sto parlando. Percepisci la sua presenza e sai dov'è rispetto alla tua posizione. Chiaramente buio, quindi non lo vedi, però la sua presenza, della sua presenza sei sicuro. Sì, corri addosso, Marco, cioè, senti. Io beh, con l'accetta dico via bestiaccia. Faccio finta di scacciare l'animale e gli dico di correre. Ah, sarò un druido. Dico, tutto a posto, tutto a posto. Animale, via bestiaccia. Io dico, sono un druido, ma quando gli animali escono dal confine della foresta e vengono a disturbare nei villaggi durante la notte, mi fanno prendono 5 minuti. Cosa fai, Marco? Cosa fai, sfortuna? Ci devo provare performance 21, mi fico un animale. Ok. l'altro performance 21. Che animale ti fingi? Beh, ha quattro zampe, K, cioè. Sembra un lupo. È per. No, un animale molto pacifico, tipo una puzzola. Una puzzola alta, 1,80 m. Merda. Sono per terra, non sono in piedi. Avere una puzzola lunga, 1,80 m. Un pacchierosso. Ebbene, uno delle due guardie dice: insegniamogli una lezione per cui non tornerà più. Fermi! Non si ammazzano gli animali senza voce. Hai fatto critico, dimmi di sì. Vabbè, ma lo studiamo anche. Scusa, mi ha detto che anch'io svantaggio. Hai detto le prove di perception, quindi anche loro dovrebbero. Di perception. Cioè, anche loro stanno sparando al buio. Anche se hanno le visioni elfiche, no? Aspetta. Loro sono in dim light. Cosa vuol dire essere in dim light? Elenco delle condizioni su Tegos and Dragons. Ma sei andato a dormire? Credo di sì. No, in bagno. Ah, ok. Land, dove sono le regole della visione? Uffa. Quanti punti ferita? Adventuring, movement, tutti, resting, waiting advance. Non ha riposato neanche lui, eh? No, un riposo breve l'hanno fatto. Lui recupera tutto. Tagliata cover. Dovrebbe essere qui? Non credo però. Cover, infatti no. Grapple. Healing. Range d'attacco in close combat. Perché le cose importanti sono sempre nascoste. Giulio, trovalo tu. Mi si tolterebbe impron, surprise, initiative. Downtime activities, che cazzo me ne frega. Vision light, eccolo. Dim light. E quindi? The blind, va bene. Bright, ok. Blind sight, dark vision. Possibile che non ci sia differenza tra bright light e dim light? Sì, perché tanto. Uno svantaggio a perception. Sì, non ha senso che ha svantaggio a guardare, però se deve mirare uno con un'arma, vedi da Dio. Perché anche se non riesci a distinguere i dettagli del bersaglio, tu gli puoi sparare addosso, indipendentemente dal fatto che vedi i suoi contorni o meno. Beh, vedi tu. Perception non è vedere, perception è guardare nei dettagli, capito? Quindi sì, è una sagoma di spari. Boh, quanto farà un D8? Dai, beccati questi 10 danni. 10? Sì. Una freccia ti si conficca nella chiappa. Bene, l'abbiamo messo in fuga. Grazie, signor Patk. Per fortuna che. Ma che cosa ci faceva lei qui fuori? In realtà io non mi sono sentito molto bene, avevo bisogno di fare un bisogno. E non volevo infastidire. Non volevo infastidire con l'odore. Con l'odore. Insomma, ha capito. Se ha problemi alla digestione, possiamo darle delle erbe curative che fanno miracoli. Sì, non sarebbe male, perché quel cervo lì, senza offesa, ma io li so cuocere meglio. A Krezki si mangia meglio. E poi a Krezki si mangia meglio, poi con il vino si digerisce tutto da Dio. Però scommettiamo che lei è un poco imbattibile, perché parte Google. Che venga con noi, le prepareremo un infuso. ti accompagnano verso questa casa. Lasciati una roba che ti fa veramente cagare tutta la resta della notte. Io provo a resistere, ho la cosa apposta ai demoni per i veleni. E niente, ti accompagnano verso la casa. Sfortuna, cosa fai? Ho un problema di digestione, non se è che danno, qualcosa se, che se mi danno una cosa che mi fa digerire meglio sto bene. Cerco una casa. Meglio che non sia allergico a quell'erba. Hai una freccia conficcata nel fianco. Me la tengo. Vabbè, sga, adesso devo toglierla. Non lo so, fai come ti pare. Vabbè, 10 HP in meno, non è che stiamo avendo. Sì, ho capito, ma tu continueresti a girare con una freccia piantata lì. Nella realtà, con una freccia nel fianco, muori dopo poco tempo. In D&D hai perso 10 HP e tiri dritto. Anche se ne hai 10 in corpo, vai avanti. Ripercorri la strada a ritroso e trovi la casa alla quale tu ti stavi dirigendo. Penso che la sua idea sia di continuare il suo piano, in realtà. Ok, tiro fuori una delle gemme che avevano gli zingari. Tiro fuori un pugnale e uso Green Flaming Blade e lo conficco dentro. Conficco il pugnale fiammeggiante dentro la capanna. Ti serve come componente materiale la gemma? No, per dar la colpa agli zingari. Sono dei modi più espliciti, ma molto arzigogolato come ragionamento, cioè almeno io non c'ero arrivato. Mistanimosia, non so cos'è. Prende fuoco la casa? E fammi vedere se con Green Flame Blade la puoi usare in questo modo. Faccio danno fuoco, posso farlo anche balzare contro i nemici. Appunto. Per dire... Non c'è? Per dire Eldritch Blast ad esempio non lo puoi sparare contro un oggetto. Oh, capito. Ma la descrizione qui non c'è, perché forse non avrò aggiornato l'app. Sì, ma il blast di Eldritch non è una cosa di fuoco, no? È di forza. Appunto. Green Flame Blade. No, one creature. Ok, quindi ti serve una creatura. Vabbè, allora faccio la vecchia maniera. Torcia, fuoco. Ok. Ti metti ad appiccare fuoco, immagino, al tetto, che penso sia la parte che prende meglio. Perché forse il resto è anche fatto di mattoni, la base di legno. Ma non si capisce la fortezza di adamantio, ma non si capisce molto dall'immagine autoestinguente, però di sicuro il tetto di legno. Niente, comincia a uscire un po' di fumo e a fare rumore di legna che arde. Scappo. In che direzione? Mi muovo di 60 piedi nella direzione opposta e poi inizio a gridare. Tanto adesso vedo. Aiuto, mi hanno sparato una freccia. Ok, questa è la nostra freccia. No. Inizia a gridare e i vostri amici che prima dormivano insieme a voi escono preoccupati dalla loro abitazione e ti vedono che sei lì che corri e gridi. Io li vedo. E allora li vedi perché aprendo la porta della loro casa c'è la luce dell'interno che illumina la strada sulla facciata. Ok, spezzo la freccia. E poi mi avvicino a loro. Guardate cosa mi hanno fatto. Io ho salvato il vostro villaggio. Ma adesso voi mi dovete un favore. Ok, fammi un sta cosa. Fammi un deception. 18. Insomma, ma tu ce l'hai Minor Illusion? Sì. Ciao. Perché? Cosa proponi? Ma tanto lui non è qua, quindi ignora. Ma non vedo niente, cosa posso fare? No, non adesso, in generale. Nella vita. È un country. Sì, dico in generale. Non due ti soccorrono preoccupati, un terzo invece ti guarda storto. E gli altri due ti dicono: cos'è successo? Sei ferito? Vieni qua, proviamo a. Dobbiamo bloccare l'emorragia. E insomma provano a tamponare la ferita. Tanto mi ha tolto punti ferita temporanei, vabbè. Vabbè, ma la freccia ti ha colpito. Ah, è terribile. Ero qua fuori e una freccia e poi la casa ha preso fuoco. La casa ha preso fuoco. Guardano la casa. La casa ha preso fuoco e suonano l'allarme. I due sono. Tu sei nella. Qui e senti suonare un corno. E preoccupati, quelli che erano con te, che ti stavano preparando la tisanina della digestione, escono di botto. Scusate, la mia tisana. Ma io dico. La tisana la sapevo che non era posto sicuro, dovevo stare a Kretsk. E suona il corno. Al tuo corno fanno eco altre corna. Sì. E plurale. Corni. Invece, vabbè. Se le corna sono. Esatto. Hanno fatto delle corna. E da ogni casa vedete uscire. Una cosa, è un oggetto diverso. Le luci di torce che si muovono e si dirigono verso la casa in fuori. Ma loro non hanno bisogno di torce. Beh, vedono meglio. Esatto. Per vedere più in là. Io dico, saranno sicuramente stati vistani. Mi faccio la gamba così nessuno può vedere la freccia. Beh, sono sempre loro. Curano, sai, te la strarranno sta cazzo di freccia. Vengono qua, nei villaggi elfici, col wifi, 35 euro al giorno. E poi danno fuoco alle nostre case. E appunto arrivano di gran carriera, escono anche quelli della casa a cui stavate appiccando fuoco e si mettono a spegnere le fiamme e tutta la popolazione lì preoccupata. Arriva il capo nella sua vestaglia. Posso fare un altro stealth? No, perché non c'è nessun punto in cui puoi nasconderti e cioè, pieno di gente intorno a te e due persone ti stanno medicando. Ora Marco è il momento di fare l'invettiva verso la non sicurezza di questo luogo e esortare la popolazione in vestaglia a seguirci nella notte. Che cos'è questa confusione? Cos'è successo qui, grida il capo, villaggio? I vestani! Paolo. Voi siete fatto venire qui, ci avete ospitati, ma questo non è un posto sicuro. Non è come te. Sono via le Crezzi, che sono entrato all'inferno. In un paradiso, vino, donne, orge. E qua incendi, devastazione, morte, miseria, terrore. È esattamente il contrario. Però prende parola il terzo tipo che dormiva insieme a voi. Ah, quello, Marco, se qua scappa il fight è finita. Quello che non ti ha medicato e dice: casualmente succede proprio quando siete arrivati voi. Cosa ci facevi tu qui fuori? Proprio mentre è stato appiccato questo incendio. Stavo pensando a un buonissimo vino di Kerr. Cosa? Scusa. E quanto si è pensato bene con i cosciotti di Cervo. Marco, scusa, quanto carisma hai? Io. Sulla schedona della vita. Comportati come uno che abbia di fatto in carisma, porca troia. Ah, e quindi lei muove delle accuse così. Così. Nel mio terreno, nelle mie terre, di solito dicono la prima gallina che canta ha fatto l'uovo. Vabbè, lui ha 8 in carisma. Come fa? Vabbè, però posso fare. Come, no, si può come si può puntare il dito così? No, me ne devo tirare. E uno è fallimento automatico, no, per quello che dici. Bisogna controllare se troviamo indizi del responsabile. Silenzio, dice il capo. Non si muovono a questo tipo di accuse senza avere le prove. Giusto, signor Pat. Quel che dico anch'io. Perlustrate l'area, cercate qualsiasi cosa Gen sospetta. Gen Mark. Il germe che ho scritto Vistani, Vistani. Ah, qualsiasi cosa sospetta. Le due guardie che ti hanno offerto la tisana, appunto, dicono: capo, abbiamo visto una figura nelle tenebre e l'abbiamo scacciata. Sono convinto di averla presa con una freccia. Non deve per forza aver lasciato qualche traccia nella fuga. E bene, per illustrare la zona, e gli animali difficilmente prendono danno fuoco alle capanne. Chissà che bestia immonda era, non possiamo mai essere certi degli orrori che si nascondono nelle notti di Barovia. Vistani, sono loro. Allora, lasciatemi proteggere il villaggio. Inizio a usare il plasma terreno per creare degli ostacoli. In che modo, scusa? Io mi avvicino. Marco, che distanza è da me? 10 piedi. Io mi passando così, un po' en passant, gli sparo un cura ferite. Sulla ferita. Non ho capito. Non ho perso a capire, è inutile. Come no? Aveva dei punti ferita temporanei. Però è il buco in mezzo alla gamba. Sì. Quindi te lo tappo. Ma sì, in realtà li ha persi perché comunque aveva ricevuto ferite anche dai Vistani. Vabbè, però c'era la ferita alla gamba, raga. Comunque, mi curo 4 PF cercando di. Cioè, per togliere la. Esatto, cioè, magari che buffargliela, esatto. Ok. L'unica cosa, si vedrà che lo stavo medicando. No, sparo, cioè, stanno nel buio, mi stanno. Gli sparo. Buio, loro ci vedono. Però non mi stanno. L'incantesimo richiede componenti vocali, verbali, quindi. Si sente quando uno lancia un incantesimo. Vabbè, io ti lancio. Sto curando. No, non dico così, io dico parole druidiche. Sparo la cosa. Non sanno se sto curando, se sto. Tanto lui tu stai tirando su degli ostacoli da terra, no? Sì. Cioè, state per combattere contro gli elfi. No, mi sta creando delle cose da terra dicendo che aiuta gli elfi a difendere il villaggio. Con plasma terreno. Io arrivo lì a dire ha bruciato, toccando lui. Se mandavo sceo in confronto sembra sì, perché almeno sceo avrebbe tipo detto combatterò con il più forte di voi, se vinco verrete con noi. Quello che prima ti ha accusato dice: io sta profanando la nostra terra. Ottima idea. Rovina i nostri campi, è una sventura per questo. È una sfortuna, vuol dire. Esatto, grazie, ma non siete insieme. È una sfortuna per questo villaggio. Dobbiamo esiliarlo. E qualcuno dice: sì, chi deve esiliare? Chi vuole esiliare? Cioè, sfortuna. Ah, perché ha beccato? No, è uno che lo guarda. È uno che lo guarda tutto storto. Hai persuasion, no? Sì. Hai anche tipo un più 10 in persuasion. Sì. Non mi direi niente di dire. Come non ti viene da dire? Capo, comunque questo elfo qui sta muovendo delle accuse piuttosto, piuttosto pesanti verso il mio amico. Almeno gli diamo la possibilità di difendersi. Avete ragione. Si faccia un giusto processo. Oh, fai un cazzo di appello, Marco. Lascialo giocare. Dicendo che sto posto è pericoloso. Che sarà. Prima. Sì, l'hai fatto con 3 persone. Non hai tirato persuasion. Porca troia! Come mai arrabbiato così tanto? Ho capito, cioè non gioca personaggio. Ma stai calmo, adesso va bene. Esatto, e mezzo. Adesso affrontano gli elfi. E poi chi sopravviverà degli elfi, tra loro e gli elfi, tornerà a Crezzi. Sentite uno dire: ho trovato una freccia spezzata qui. Cioè. No, la freccia spezzata l'ho ancora io. Non l'avevi buttata per terra? Cosa sta succedendo? Cioè, è compagnia di dementi, cazzo. Marco, fai vedere che la gemma, fai in modo che la trovino. Oppure Dio ha trovato una gemma. Avevi lasciato la gemma quando hai... Quando... Ok, uno, un altro trova la gemma, avete lasciato altre cose. Qua qualcuno ha orinato. Io. Quello sono io. Vai, crea diversivo, Arci. Invasione di lupi. No, non posso. Ci sta. E già gli avevo gatti prima. Posso fare? Oddio, c'è un gorilla là. Dove? C'è un gorilla là, poi corri dietro la casa ed esce dall'altra parte. Lo vado a fermare. Bene, il capo sente le varie testimonianze e poi chiama appunto te, Sfortuna, e ti dice: cosa hai da dire in tua difesa? In mia difesa? Voi andate a accusare me? Io sono venuto qui, d'accordo, lasciando la città con vino, con donne. Ah, non era sotto sedia. Pace, prosperità. Ma il primo errore è stato dire che Kreska era sotto assedio. Cioè, io mi andavo dicendo: convincete che il Kreska è un posto sicuro per noi. Questa è una riva. Kreska è sotto assedio. Io non lo so. Sotto assedio. Kreska è assediato dal vino, cioè, dalla bellezza. È per questo che non sicurezza. Io di solito. Qui chiedi a mica, dando Giovanni e Giacomo. Quando è assediato dalla pace. Quando nella savana è presente, quando spiegano ad Aldo una, tutte le mattine una gazzella si sveglia e dovrà correre, ecco, gli hanno spiegato questo, loro sono andati là, siamo stufi di godere di pace, serenità e bellezza. No, siamo assediati da questo stato. È vero, non è che ha spiegato tutta la situazione prima. Sì. Vogliamo un po' di guerra. Hanno aggiunto alleati ai nostri nemici. Siamo vessati dalla pace, dalla prosperità, dalle donne. Queste donne. Cioè, se mandavo addirittura se mandavo Kevin da solo avrebbe avuto un risultato migliore. Sono decisamente dato che sia Cecilia. No, ok, dico che noi venivamo in pace. Siamo stati attaccati sulla strada. Poi attaccati anche nel villaggio e adesso come osano passare mostro no, non mostro niente. Aspetta, questa scusate, io sono costretto. Allora, dicono qui ne... Io sono costretto, mi porto la pace, mi cresco. Vabbè, cosa che dici? Vabbè, qui nessuno osa niente. Stiamo semplicemente curando la realtà dei fatti. Per essere sicuri di non fare dei torti a nessuno. Se a lei non piacciono i nostri modi di fare, beh, è libero di andare. No. Non dicevate così ieri sera quando ballavo di felice attorno al fuoco? Beh, ci fa la vittima adesso, è bellissimo. No, non aveva proprio questo atteggiamento, anzi, mi sembra strano che stia parlando con la stessa persona. Vede, capitano, vede, purtroppo... L'ironia, ieri ballavamo intorno a un fuoco in amicizia e stanotte il fuoco ha aggredito questo paese indifeso. A Kretzky il fuoco è solo per ballare o per scaldare barili di vino, come si chiama? Sangria, l'imbrulè, mentre l'assedio della felicità è costante e imperversa alle mura. E noi siamo i primi assediati che però fanno entrare l'aggressore nelle nostre vite. Se proprio ci state così bene, allora potete tranquillamente tornarci. Ma il nostro altruismo ci impone. Perché tra i vari assedianti anche l'altruismo è alle porte. È entrato nei nostri cuori e ci ha detto: salvate i paesi insicuri e dategli una mano. E noi lo stiamo facendo. È un compito ma molto è chiaro nobile. Che sai come seminare su un selciato di cemento di pietra, di cemento. Il vostro compito vi fa onore, ma questo è un paese sicuro, quindi potete rivolgere la vostra carità altrove. E detto questo, ci aggiorniamo alla prossima puntata. Però voglio che quando si giocherà la prossima sessione voi ruolate, cioè arrivate e ci spiegate come è successo. E visto le reazioni di Atanas, tenetevi forte. Oddio. Vabbè. Bene. Buona la cosa notte. Positiva è che gli hanno detto potete andare e non sì, no, è già positivo. Marco, comunque il carisma te puoi anche toglierlo, ci puoi mettere tutto in destrezza. Cioè il bardo meno bardo, il bardo a gattoni nel buio che cerca di bruciare il villaggio con la freccia del culo. Ma siete riusciti a bruciare il villaggio? Sarà un po' l'incendio. Sì. In realtà non so se, cosa sta spegnendo il fuoco sulla capanna in casa. L'hanno già spento con cosa? Pisciando qua, secchiate, coperte ignifughe, non lo so. A Kretzky li spegniamo col vino. Magari quello no. Quando ci sono gli incendi di bellezza. Quando bruciano i monumenti d'oro. Avete visto e sentito? Non sappiamo bene cosa. Il 34esimo episodio della maledizione di offerto da Kretzky, la città assediata dalla bellezza delle onde. La perfezione. Eccetera, eccetera. Tu Mario quando torni il 20 che cosa gli fa? No, gli spiego come si deve giocare, non ho capito. Esattamente. Questo manganello gli spiego. qui si impugna. Bravo Marco, ci siamo giocato bene però. Gli spiego cos'è la diplomazia e come si fa in dungeon. Vi ringraziamo per averci seguito e speriamo vi abbiate riso almeno a metà di voi. Un quinto. Vedi Marco. Troppo, e vi diamo appuntamento ai prossimi episodi con Tycoons & Dragons. Che altro aggiunge? Tenetevi forte! Mi raccomando, visitate questo, sta bellissimo. Quando lo dici devi rimanere immobile, poi partono i titoli di coda, come nei film anni 80. Ok, adesso se riesco a scrivere questo, sì. Vuoi terminare? Lui mi sei il maglioncino. Vabbè, dobbiamo splittarlo più spesso. Però quello è giusto, cioè splittarlo in maniera equilibrata come è stato adesso. Cioè noi che stiamo morendo abbiamo bisogno di cure, loro sono là a litigare con chi dovrebbe essere il nostro alleato, è perfetto. Litigare, cioè non vogliono venire, cioè. Se non vogliono venire, non vogliono venire. Ho capito, per convincerli Marco non hai fatto esattamente niente. Sì, è vero. Come? Ci abbiamo provato. Ma no, Marco, hai parlato con tre dizi, tu saresti dovuto andare lì, dov'è il capo? Ah, facciamo la cena tutti assieme. È una cena facile. Non è interessato. Merda, non hai fatto nessuna prova. Cioè, secondo me l'unica era a un certo punto dire, se il capo proprio non era interessato, dire ok capo, ma visto che a te non frega un cazzo della vita, cioè, ah. Non possiamo almeno sei bloccato parlare. Batteria no, scarica, no, vabbè. Si muore a via, giusto. Non potevate tipo dire ok, possiamo almeno parlare a tutta la comunità e vedere se c'è qualcuno invece a cui la vita interessi. Fai il bardo. Esatto. Fondo partito, candidati e poi vediamo quando prendi. Esatto. Tanti album bene. A parte che il paladino doveva andare. Sì, che il paladino aveva già fallito lì in teoria. Però. No, tutto. Ci stava che ci andasse il bardo, ma il bardo non ha fatto il bardo. Cioè. Fatto il ladro, ha fatto l'arcantrista. È che in realtà noi abbiamo giocato un po' così, nel senso che ci siamo detti Marco ha 18 e quindi mandiamo Marco. In realtà vabbè, ho capito, però no, vabbè, ci sta che il bardo 18 comunque trattare. In realtà è nella scheda, non è che è un 18, cioè è un 18 nel senso che era presente in realtà, è anche vero che Marco giustamente, cioè non, questi qui non sa neanche chi siano. Sì, ma gli è stato spiegato prima che andasse. Sì, vabbè, ho capito, non ha fatto esattamente nulla. Vabbè. Eh no, vabbè. Non è che non ha fatto nulla, diciamo. Ci siamo divertiti e non è ancora finita. No, è stato molto divertente questo, sì. Non ha toccato le corde, giusto. Imparerà. Ci ho provato. No, Marco, il punto è questo. Per una